Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità, e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dice se potessi fare l'avvocato, se tu avessi tempo faresti il bucato. Questa storia per cui deve restare chi c'è da lungo tempo ed è grosso, è una storia che avrebbe portato l'Italia a tenersi Mussolini come Franco per decenni. L'Italia unitaria nasce da 700 pazzi su due barche, il fascismo va via per una minoranza, ma piantatela di farvi rimpiare la palla da chi dice sto qua e ci devo restare. Ma qua, quando mai adottereste nella vostra vita privata una cosa di questo genere? Vi rendete conto che è una truffa intellettuale? È il peggior crisma a tenere i ladri di fiducia di questo paese a casa chi mente. A molti rimpianti io avrei fatto. E detto questo, per votare Giannino non è impedito e non è neanche obbligatorio. Quindi però uno sa che vota Giannino. È un voto al vento che non conta nulla. Mi avresti fatto fuoco concentrico su Giannino da parte di Berlusconi più volte nei giorni scorsi e oggi anche sulla prima pagina del giornale. Caro Parenzo, dove ti trovi? Dove ti trovi? C'è la grande paura, la grande paura, lo sai qual è la grande paura? È che Giannino ha consenso in Lombardia, pare sopra il 4%, così dicono i sondaggi di Berlusconi. E non solo sondaggi di Berlusconi, e dunque dice Berlusconi, qui perdo la Lombardia, e questo è il punto, non ha nulla a che fare con i contenuti, con le cose da fare, nulla! Perché devo parlare piano? Dove sei? Io comunque sono, guardi, io sto dicendo Berlusconi, sono all'auditorium della conciliazione a Roma, dove ha appena preso la parola Berlusconi, meno male che Silvio c'è, come sto facendo la radio, però allora ti passo un militante del Berlusconi. Posso un attimo? No, aspetta, aspetta, chi è? Cruciani. Sì, ma fai l'unica domanda che vale la pena fare. L'unica domanda che vale la pena fare è perché qui si è detto che ci sono delle mignotte in lista. Cioè io lo dico con rispetto, però Feltri ha detto che ci sono delle mignotte in lista. Chiedo, signore, lei berlusconiano doc, che dice? Ma non ne sono a corrente, non mi risulta. Aspetta che c'è invece un altro ospite che... Lei chi dice? Allora, guarda... Lei come si chiama? Allora, io sono il consigliere Biondi, c'è la Ceccacci, però la Ceccacci... No, ma chi lo dice questo? Lei lo dice? No, chi l'ha detto? Feltri l'ha detto. Ma lei piano, c'è Berlusconi che sta parlando. Feltri l'ha detto, no? Feltri. C'è la Ceccacci. Allora, piano che ci cacciano, lei è pazzo. È la Ceccacci. No, non dica così, lo dice lei questo, e si vergogna di quello che dice. Pronto? Ma chi era questo qua? Il consigliere Biondi? Consigliere Biondi di che? Consigliere Biondi? Consigliere Biondi dice, due punti tra le mignotte c'è la Ceccacci, io questo ho sentito. Consigliere Biondi, ma lei è un consigliere ancora comunale, che cosa pensi? È la Ceccacci che è una bella ragazza che ha 20-30 anni di teatro, Fiorella Ceccacci. Però, aspetta, questo vuol dire che è una mignotta, scusi. Però. Ma chi l'ha detto? L'ha detto? Io ho fatto una domanda precisa, ho detto Feltri, qualche giorno fa ha detto proprio alla zanzara. Sì, ma questa è la radio, bisogna parlare, eh? Bisogna parlare alla radio. Bisogna parlare, ma sta parlando dello scuolo. Ma chi se ne frega, esci allora. Fare l'avvocato se tu avessi. Oh, Grasso, candidato, avete sentito che Parenzo è inviato dove c'è Berlusconi? L'abbiamo inviato lì sperando che riesca a parlare, almeno questo. Piero Grasso insiste a dire che la questione del premio a Berlusconi sulla mafia è una mia invenzione. Vabbè, ognuno ha le sue fissazioni, sono anche gli altri che glielo chiedono, però questo è fissato che l'abbiamo inventato noi. Ha parlato lui di premio, abbiamo fatto la domanda, ha detto di sì. Secondo lui è una mia invenzione, io lo abbraccio fortissimo, ma caro Grasso, non è una mia invenzione. Diciamo che dare premi è stata un'invenzione della zanzara e di Cruciani, e comunque se volete un premio anche voi sono disposto a dare, ormai visto che do premi a tutti. Che voto darebbe a quella gestione? Il professore. amore se avessi studiato almeno tre ore. Ma le cose più belle di oggi, caro Parenzo, caro, mettiti da parte un attimo se non puoi parlare, perché la radio si fa parlando. Esci, fai qualcosa. No, no, ma infatti sto raggiungendo. Beh, questo deve essere chiaro, Aspetta, le cose poco fa. Un attimo, le cose più belle di oggi. Abbiamo un ospite, c'è tanto tempo, puoi parlare, lo sai? C'è tempo. Sono Di Pietro, stupendo. Senti che parodia di Monti che parla in inglese. Senti, senti. Lui parla in inglese, parla da professore, ma il risultato è sempre quello, a proposito dei tasse. Lui ha detto, appena è arrivato, signori, ci vuole una spending review perché c'è bisogno di un fiscal compact, altrimenti lo spread aumenta e il PIL non torna. Mia sorella ha detto, ma che ha detto? Gli ho risposto, ha detto che ti paghi più tasse. Lo diceva così, era la cosa migliore. Ancora, ancora sulle mazzette, sentite questa, è stupenda. La prima mazzetta che ho trovato, proprio il corpo del reato, l'ho trovato nel cesso di una persona. Ed era proprio avvolta nella carta igienica, era proprio il corpo del reato, capisce? Adesso, invece, sai cosa c'è? Ha visto nell'ultima vicenda del MPS? Ci sono le royalty, perché si pagano per un'attività di trading i broker. Lo dici in inglese, ma sempre mazzette sono. È un grillo al giorno, toglie i pensieri di torno. E allora sentiamo questa... che mandiamo? Mandiamo 86 processi, 22 più del nano. Su, mandiamo questa che è stupenda. Io ho 86 processi, 22 più del nano che va a fare la vittima in televisione. E io non facevo il presidente del consiglio, faccio il comico, pensa a te. Stato con me carino, mi avresti fatto un regalino, noi avremmo fatto... La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. A Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Poi vi spiego tutto, vi spiego chi è questo personaggio. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Parenzo, sei fermo, immobile, puoi sentire, puoi parlare, sì o no? Dimmi. Allora se... guarda, posso sentire tutto, mi sono spostato dalla sala. No, devi stare fermo, devi stare fermo, non mi interessa dove sei, devi stare fermo, perché abbiamo qui... No, volevo qui... dirti che oddio, ho incontrato, vabbè, poco avanti. Fa Cicchitto, vabbè, allora... No, dimmi, Cicchitto. dimmi. Ho incontrato Cicchitto poco fa, non so perché mi ha mandato a fanculo, semplicemente perché io avevo chiesto notizie, su commenti su questa cosa di Facebook. Invece, questo è importante, ho un appuntamento con Assunta Almirante tra poco, che ho visto entrare, lei ha riconosciuto la voce e ha detto, tu sei parente, sei un cretino, dico, io sto lavorando per fare il busto, vai via, cretina! È con noi però una persona che in qualche modo si avvicina ad Assunta Almirante, adesso non esagero, caro Parenzo. Perché, insomma, si è autoproclamato il suo movimento come quello dei fascisti del terzo millennio. Tu sai di chi sto parlando, Parenzo? Beh, fascisti, di quelli che si proclamano fascisti ce ne sono tante, sono tutte le frattaglie del movimento sociale, ci sono i signori di Forza Nuova, ci sono i signori di Casa Pound. Oh, sono tanti. Ecco, il presidente di Casa Pound, Gianluca Iannone, buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Come sta, signor Iannone? Signor Iannone. Sto molto bene, lei come sta? Sta bene? Beh, sì, me la cavo. Quanto è fascista bene, lei, signor Iannone? Da 1 a 100, quanto è fascista? No, me lo dica subito. Cioè, proprio da 1 a 100, da 1 a 100 o 110, penso. Ma 100... non so le frattaglie del... No, beh, quello è le frattaglie, quello come che dice. Come dice il simpatico Parenzo. No, che tratta pure la pecca per lei di essere ebreo, tra l'altro. Comunque, non ne parliamo. Vabbè. Per lei, dico per lei. E che problema c'è? Io no, ma infatti non credo. Comunque da 1 a 100... L'abbiamo sempre detto, ecco. Sì. Cosa avete sempre detto? Abbiamo sempre detto che non abbiamo nessun tipo di problema. Di pregiudizio nei confronti degli ebrei. Di pregiudizio razziali o religiosi. Beh, in qualche intercettazione telefonica lì a Napoli non era poi così chiaro. Qualche problema c'è, Qualche problemino. Beh, ma guarda, il discorso è questo, che è stata una telefonata, uno scherzo, una battuta di pessimo gusto sicuramente. Fatta fra due ragazzi, tipo così. Bravi ragazzi? Fatto non c'era... Ah, sicuramente bravi ragazzi, e comunque non era... Beh, bravi ragazzi, volevano a parole violentare un'ebrea, poi, non lo so, poi... Ma sa. No, ma figuriamoci, ma cioè, questa cosa poi, guarda, è anche, oggi è stato anche il tribunale del riesame, ha anche annullato la condanna, o comunque l'indagine su banda armata e tutto il resto. No, ma lasciamo perdere la banda armata, secondo lei è una goliardata detta al telefono, oppure è no? È una battuta di pessimo gusto, questo neanche a... Neanche a dirlo, insomma, no? Neanche a dirlo. Ecco, però da lì però può scappare, dice lei, può scappare. No, dal dire una battuta di pessimo gusto a architettare, organizzare o uno stupro, dice lei. Uno stupro, cioè voglio dire, ci basta un... Però sono bravi ragazzi questi qua, dice lei, bravissimi. Ah, certo, certo, sono bravi ragazzi, certo. Bah, Parenzo, tu... solo a pensare, dico, anche solo a dire una stronzata simile, grave, perché voglio gli dire... Gli dia due però... schiaffi, le sono militanti suoi, candidati, eccetera, gli dia due belli schiaffoni, lei che, voglio dire, non è che ogni tanto qualche... Beh, qualche... Veramente è successo qualcosa di peggio, perché cioè? Sono stati arrestati, beh, sono stati arrestati con... Vabbè, quello è un altro discorso. Accusa molto gravi, beh, capita accusa gravissimi. Tipo banda armata, associazione sovversiva. Vabbè, quello è un altro discorso. Proprio questa mattina il tribunale del riesame ha annullato, quindi tutto questo qui, tutto questo. No, ma lasci perdere il merito dell'accusa. Tutta questa gabbia di carta, di fatto tutta questa gabbia di carta dimostra che è un motivo pretestuoso per annullare dei candidati al Parlamento. Ah, volevano annullare dei candidati al Parlamento. Scusi un attimo. Certo, perché? Carta, però no? Io voglio dire, al di là di questo, Iannone, al di là poi dell'aspetto processuale di questa vicenda di cui le persone probabilmente non sanno, però lei, anche per queste frasi, due schiaffetti glieli diamo o no? Due bei ceffoni? Ma io penso che abbiano capito da soli, quindi non credo che abbiano bisogno degli schiaffetti, se non è che qui diamo... E che ne so, ogni tanto lei qualche schiaffo l'avrà pure dato nella sua vita, o no? Ma sì, ma quelle che ho dato comunque non li rinnego. Cioè, per lei la violenza politica, la violenza politica si può giustificare in alcuni casi? Questa è la domanda. Ma guardi, io le dico una cosa, che la violenza politica fino a prova contraria l'abbiamo sempre subita, insomma. No, ma noi in generale, dico, la violenza politica... interrogazioni parlamentari dopo assalti all'arma bianca, dopo attentati... Cioè, voi siete sempre stati vittime di violenza, mai aggressori? Ma guardi, a Napoli c'è stato un ragazzo che ha preso 5 coltellate, insomma, quindi voglio dire... Però voglio dire un'altra cosa, la violenza politica in generale, lei in qualche caso la giustifica? Ma io la violenza politica la evito, insomma. Va bene, traffico. La combatto anche. La combatte, traffico, torniamo su... Un attimo, cioè, però un discorso è... Se attaccati reagiamo, dice lei. Esatto, no? Cioè, quello è anche un principio... sacrosanto, io non posso fuggire e lasciare che altri decidano se io posso parlare o meno, insomma, allora, traffico, torniamo subito, Iannone, torniamo subito dopo il traffico. Beh, iniziamo forte oggi, caro Parenzo, iniziamo forte con questa frase vergognosa di Pier Ferdinando Casini, lo voglio dire subito, vergognosa, perché non si può accostare i gay, l'omosessualità alla questione della pedofilia. Una frase vergognosa. Ogni giorno abbiamo spunti per parlare di questa cosa. Noi non vorremmo parlare. Siamo favorevoli a quello che abbiamo detto, io e Parenzo, ma il problema non è quello. È che ogni giorno la politica ci offre frasi come questa. Sentiamo Casini. Allora, l'Europa va però in direzione diversa. Sì, a parte che non è detto che l'Europa vada, sia sempre comunque da imitare. Perché abbia ragione. Se noi prendiamo ad esempio alcuni paesi del nord Europa, hanno legalizzato dei movimenti che avevano anche facevano anche apologia di pedofilia. Non credo che per questo sia un esempio da imitare l'Europa. Allora, cioè, l'accostamento tra la legalizzazione della pedofilia o dei movimenti della pedofilia in alcuni paesi e la questione dei matrimoni gay o dell'adozione, ma vogliamo scherzare o no? Ma dove vive? D'altra parte Casini è lo stesso che ha detto che era incivile il matrimonio ed era incivile l'adozione, per cui... Beh, forse Iannone sarà d'accordo con questa sortita del signor Casini Caltagirone. Ma perché? Perché mai dovrei essere... Perché lei è a favore dei matrimoni gay, Iannone, non mi dica, lei che è fascista millennio, Casa Pound, che peraltro si presenta alle elezioni, lo dobbiamo dire, non l'abbiamo detto all'inizio. Certo, scusi un attimo, Iannone, è favorevole o no al matrimonio gay? No, immagino. No, noi siamo a favore delle unioni civili. Civili, addirittura l'abbiamo sempre detto, facemmo anche una conferenza a Casa Pound. Vabbè, comunque lei è a favore l'onorevole Paola Concia, abbiamo detto sì alle unioni civili, no ai matrimoni e no all'adozione. Questo è il nostro punto di vista. Cioè, secondo voi due omosessuali, ma ci sono omosessuali dentro Casa Pound? No, non ci sono, però ci sono dei simpatizzanti, degli amici, cioè avete dei simpatizzanti, avete dei simpatizzanti omosessuali? Certo. Cioè, tra gli amici di Casa Pound ci sono anche omosessuali e siete a favore dell'unione legalizzata? Unione legalizzata sì, matrimonio no. Vabbè, chiamiamolo... all'adozione, però questo è il nostro punto di vista, cioè noi pensiamo questa cosa qui. Sì. Non per cui, per esempio voi non volete mettere l'omosessualità come un reato, come succede in alcuni paesi dell'est, no? No, l'omosessualità non, cioè, secondo noi non è un reato, la pedofilia lo è. Vabbè, la pedofilia è un altro discorso. È un altro tipo di... Certo. Cioè lei... quindi non sono d'accordo. Lei è più liberale di Casini, cioè, da questo punto di vista. È più aperto di Casini. Ma addirittura dell'onorevole Paola Concia, noi siamo anche più avanti su questa storia rispetto al PD. Questo ho detto da Paola Concia. Ma quando l'ha detto? Quando venne, insomma. Ma veramente? Quando è venuta. Ma non me la ricordo questa cosa. Su scusi, questa cosa qui. Scusi, Iannone, ma... le volevo chiedere una cosa a proposito del fascismo. Lei ha già detto delle cose dopo la frase di Berlusconi, eccetera, eccetera. Ma lei trova che anche, per esempio, nel nazismo ci furono cose buone? Ma io non... Siccome l'ha detto del fascismo... Sì, ma a me interessa il fascismo, cioè come slancio e come movimento culturale dei lavoratori. Cioè lei preferirebbe vivere oggi o nell'epoca del fascismo? Beh, cioè, come Iannone, insomma, sono stati anni di grande slancio, di grande partecipazione, di grande eleganza e bellezza. Sì. Eleganza e bellezza pure? Sì, beh, certo. Beh, dunque lei preferirebbe... Ma lei non può negarla. Beh, l'eleganza. Ma questo. L'eleganza di cosa? Scusi, signor Iannone. La bellezza degli anni 30. Sono stati anni molto belli. Anni molto belli. Lei preferirebbe vivere in quegli anni piuttosto che nell'Italia attuale, diciamola tutta. Vabbè, certo. Di altro livello, altro spessore. Cioè Mussolini è di uno spessore. Quello che assistiamo oggi penso che sarebbe stato impensabile. E del nazismo, proprio che era alleato del fascismo, non ci trovo proprio nulla di positivo, nulla da salvare del nazismo. Beh, non, al momento non trovo. Non ha fatto mente locale, diciamo. Non ho fatto mente locale. Esatto. Parenzo, sei sparito? Che fa? Sei sprofondato? No, sono qui allibito, basito, come dire, senza più sconvolto. Neanche la saliva in bocca. Dopo ma chi è più sentito vicino a voi dei partiti tradizionali? Quello proprio più vicino, cioè dopo di voi, voi siete la destra, è proprio quello più vicino a voi che è la destra, Storace. No, nessuno. Fatto sta che vabbè, il più vicino, sì, d'accordo, però il più vicino, chi è? Ci sarà quello più vicino, no? Ma non c'è nessuno a noi vicino. Ma ci sarà un partito? Guarda, come dicono a Trieste, no? C'è il babau. E qui invece a Roma si dice mazza bubù. Quindi noi adesso stiamo avendo questo tipo di ruolo in questa campagna elettorale. Che qualsiasi cosa avviene o che facciamo diventa lo scandalo. E serve quindi come mezzo di distrazione di massa, capito? Quindi adesso non esageriamo. Come l'altro giorno, guarda, ti anticipo anche un'altra cosa. Cosa? Nel mondo dei gay, no? Della cosa che dimmi. Che è successa tempo fa, che un nostro militante su Twitter ha dato del checus hystericus a Nicky Vendola, quindi c'è una battuta. Io me lo ricordo, sì. È uscito poi su Sky TG24 addirittura Casa Pound contro Vendola aveva paura di girare per essere di Roma perché i militanti di Casa Pound l'hanno qualche offesa su internet a Vendola gliel'avete data, qualcuno dei vostri militanti gliela dà, anche se poi è difficile controllare chi scrive. C'è stato questo episodio di questo nostro militante. Voi l'avete... gli ha detto questa battuta tipo così, ma invitate Vendola a Casa Pound. Perché non potrebbe venire? Cioè, non credo che lo fanno venire. Cioè, non lo fanno venire. Lo inviti ufficialmente, lei che è il presidente di Casa Pound. Invito Vendola ufficialmente. Lo invito dai microfoni della Zanzara. Lo invitiamo ufficialmente. Non abbiamo nulla contro l'omosessualità, anzi, abbiamo nulla contro l'omosessualità, così come abbiamo già dimostrato. Combattiamo la psicopolizia, cioè, ovvero quello che fa delle parole armi, no? E che poi serve esclusivamente l'attenzione. Sì, comunque lo invito ufficialmente a Casa Pound. Senta una cosa, ma con Grillo c'è stato qualche colloquio, no? Ma con Grillo c'è stato un incontro che poi è stato reso pubblico dalle nostre immagini. Cioè lei si sente vicino a Grillo o no? Ma per alcune cose sì, per il resto... Però lo vede che mi sta dicendo un movimento che è vicino a voi? Cioè, dopo ma non è un movimento vicino, cioè, spiego, c'è stato questo incontro con il nostro candidato. Vabbè, lì al Viminale, all'epoca. C'è stato là l'incontro al Viminale e si è trovato sicuramente dei punti di convergenza che sono tipo la nazionalizzazione della banca e la proprietà della moneta, no? Sì. Su questo possiamo intavolare una discussione, ma perché non chiama lei direttamente Grillo, dato che è lei il presidente di Casa Pound? Perché non lo chiama direttamente? Ma perché... vedendole, a parte che lui ha tanto da fare, così come tanto da fare sappiamo noi, visto che comunque gli spazi per noi sono molto molto limitati. Sì. Poi possiamo far passare la campagna elettorale e poi ci possiamo sempre incontrare. Ma non c'è Parenzo? No, ma dico, tu ti rendi conto, la democrazia permette che il signor Iannone, il suo movimento, lui dice io sono 110% fascista, la democrazia è questa roba straordinaria che fa anche presentare il signor Iannone che dice di essere fascista, cioè hai capito in che mondo viviamo? Nel fascismo la libertà non c'era, mandavano la gente al confino, signor Iannone. Ma questo, sì, ma guardi, cioè, forse no, lei è soltanto di parte. Perché lei è dell'idea che il confino fosse una vacanza? Ma io sono convinto di una cosa, che uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, che velocemente, viene assassinato, viene assassinato e esposto. Ma era una vacanza al confino? Era un partito comunista, ma era una vacanza al confino? Viene ucciso e viene assassinato. Così come, guardi, ti posso rispondere? Vabbè, non mi risponde, non mi risponde. Bortiga, del medico napoletano Bortiga, che era un... Era una vacanza o no il confino? È stato anche il fondatore. Non mi risponde, fondatore di lotta comunista. Devo... mi fa parlare un attimo. No, devo chiudere purtroppo, abbiamo i tempi noi qui alla radio. Devo chiudere, giornale radio. Io ho 86 processi, 22 più del nano, e io non facevo il presidente del consiglio, faccio il comico, pensa a te. Allora si arda su un segretario comunale e dice la spesa non si può fare perché avevamo 60 milioni di deficit. Allora si arda su un consigliere comunale e dice e ben tanto dovremmo quelli, te dico tutti a rete come matti. E si arda su un altro consigliere dell'opposizione e dice brutto imbecille, non capisci niente. Quelli soldi stanno di riserva, non si possono toccare. Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause aperte ci salva più. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Il mitico contadino di Terni a 24 mattina alla segreteria di Alessandro Milan. Continuate a chiamare allo 02 46 52 4492. Parenzo, dove diavolo sei? Beh, guarda, sono uscito un attimo dall'auditorium della conciliazione dove è in corso la produzione dell'onorevole Silvio Berlusconi, non potevo stare dentro perché il cellulare prendeva male. Tripudio di bandiere. Vabbè, lascia perdere la descrizione. Che cosa hai? Qualcosa di fresco? Hai accanto qualche signore, qualche fan, qualcuno? Beh, o no? Ho accanto, sì, sicuramente. Ho accanto l'operatore della 7, se vuoi. Vabbè, ma chi se ne frega quello? Ma perché? Sono tutti dentro. Cioè, la signora, quello che ti posso segnalare è questo. Sì. Che mentre ero lì fuori, mi ha fermato un vigile urbano. Sì. Mi ha detto, lei è Parenzo, mi saluti Cruciani. Hanno trovato al Campidoglio, il busto di Almirante. Ma l'hanno trovato o è stato avvistato? Sono due cose diverse. Dice che era lì. Hanno mandato subito una pattuglia. Pare che abbiano circondato il busto, transennato la zona e ora i RIS di Parma stanno andando lì per fare i rilievi. Ma quando è che la becchi la signora Almirante? Non lo so, perché qui c'è un casino, ma adesso spero di beccarla, certo. Comunque, non faccio il cretino. Aggiornamento, tra l'altro, sui rapporti tra Brunetta e Tremonti. Beh, senti cosa dice Brunetta. Facciamo lo stato dei rapporti Brunetta-Tremonti. Sapete che tra i due non corre buon sangue, per usare, come dire, no? Un eufemismo, caro Parenzo. Senti, secondo Brunetta, qual è lo stato dei rapporti? Lei? Io su Tremonti dico come si dice sui morti: niente se non bene, nil nisi bene, dicevano i latini. Quindi solo bene, solo cose buone su Tremonti. Lei quindi ritiene che non avrà da queste parole così abbastanza taglienti che Tremonti niente non avrà non bene. Niente se non bene su Tremonti. Di Tremonti dico solo bene come dei morti. Idillio, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Draghi, Banca Italia corretta nei controlli su Monte Paschi, ho firmato io le ispezioni, la D viola, basta derivati, non c'è fuga dei depositi e il titolo vola. L'amministratore delegato di Eni Scaroni indagato per corruzione per una presunta tangente in Algeria, lui si difende, siamo totalmente estranei. Braccio di ferro a Bruxelles sul bilancio europeo, scontro Cameron-Hollande sui tagli, la Merkel, difficile accordo, forse si deciderà anno per anno. Monti sul bilancio europeo, spingeremo per la crescita e l'equità, le proposte di Scelta Civica sul fisco, possibile tagliare l'IRPEF e dimezzare l'IRAP. Berlusconi rilancia sui posti di lavoro, 4 milioni detassando le assunzioni, vescovi sulle elezioni, gli italiani non si faranno abbindolare. Bersani, aspettiamo ancora il milione di posti che Berlusconi aveva promesso, pronto un piano per rimborsare i crediti alle imprese, Di Pietro ospite al TG3. Dopo l'attentato al leader dell'opposizione in Tunisia, il premier apre alla piazza, ma il suo partito dice no al compromesso, scontri a Tunisi, due morti. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Prima di sentire la vostra voce ho diverse cose da farvi ascoltare. Innanzitutto, ieri non abbiamo mandato uno dei grandi annunci di Antonio Razzi, uno dei grandi spot che vengono mandati online dal signor Razzi. Già ne ha fatto uno ieri sera da noi che era eccezionale di per sé, eh? Bellissimo. Però senti questa cosa qua sull'IMU e sulla casa. Senti Razzi, Razzi è un uomo molto fortunato. Senti. Cari amici abruzzesi, il programma del presidente Silvio Berlusconi io credo che sta a tutte le famiglie a cuore, è quello dell'abolizione dell'IMU, perché l'IMU non è corretto che per vivere una famiglia bisogna pagare, specialmente quando uno vive sulla prima casa, e le famiglie si forma con la casa, senza la casa non è possibile fare una famiglia. Hai capito? Senza una casa non è possibile fare una famiglia, senza una casa. Ma qui siamo a livelli di gli aforismi di Razzi, altro che gli aforismi di Oscar Wilde, di Bernard Shaw, ma qui siamo a livelli altissimi. Era una rubrica fissa, il signor Razzi, con i suoi aforismi, le sue massime. Ma scusa, quello che ha detto ieri da noi? Ma cosa viene studiato nelle scuole di comunicazione politica? Aspettare, attendere. Razzi, Berlusconi come un messia, senti. Chi è Berlusconi? È un messia. Mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia e può salvare anche l'Europa, non solo l'Italia. Sei riuscito a trasformarlo, se non vuoi vedermi intorno. E dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Sì, perché forse dobbiamo aspettare ancora un altro millennio, mille anni, che arrivi un'altra persona come Berlusconi. Godiamoci in questo momento che lui c'è. Meno male che Silvio c'è. E questo lo dobbiamo ringraziare. Hai capito, sì? E questo lo dobbiamo ringraziare. Laddove non si capisce quali sia il soggetto, qual è il verbo e qual è il complemento oggetto. E questo noi lo dobbiamo ringraziare. Senti, ma sulla frase della Conferenza Episcopale Italiana di oggi non vogliamo dire nulla? Cioè, io qualche volta divento pazzo. Come si dà una tale importanza? Allora, la CEI oggi ha detto sulle elezioni: gli italiani non si faranno abbindolare. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Beh, è chiaro, è molto chiaro. La CEI ha scelto Monti, no? Ah, tu dici che è la linea che è la linea della moderazione di Monti? No, sì, ma le persone normali non lo capiscono. Gli italiani non si faranno abbindolare. Ma che cosa vuol dire? Non vuol dire nulla in teoria, se non si faranno abbindolare. È la tua dietrologia che ti fa dire questa cosa. No, ma non è la mia. Mi pare molto chiaro che pezzi importanti della Conferenza Episcopale Italiana, del Vaticano, appoggiano e del mondo. Ma questo è all'inizio, una roba naturale. Ma questo all'inizio. Ma a maggior dopo ragione con la sortita di oggi, scusami. Non si vanno a abituare da chi? Chi è che secondo loro sta vendendo sogni? Chi è che ha promesso dell'IMU, di restituire l'IMU? Che, voglio dire, è evidente che il mondo cattolico appoggia Monti, ma stiamo dicendo una cosa. Bisogna chiedersi. Grillo, fammi se sentire bisogno. Grillo, fammi sentire, lo sai che un grillo al giorno per me è fondamentale. Fatemi sentire Grillo su Berlusconi che vuole dare l'IMU. Il nano che va lì e vuole ridare l'IMU dell'anno scorso in contanti insieme a un set di pentole. E c'è gente che magari ci crede. Siamo un paese così, magari qualcuno ci crede, perché c'è anche gente che crede a Coccolino, che esista, che sia una morbidente reale. Ma che mondo è questo? Ma hanno messo sul giornale due giorni fa che io ho esortato Al-Qaeda a bombardare il Parlamento italiano, vi ricordate? Ora, tanta gente mi ha scritto, mi ha detto, dai, dai, è vero, vai avanti. Allora, incitano stupidamente alla violenza, non era così. Ridà le coordinate del Parlamento, ridiamole pure noi le coordinate del Parlamento. Tanto Al-Qaeda o qualsiasi terrorista, se vuole bombardare il Parlamento italiano, non è che ha bisogno di Grillo. È una polemica ridicola questa qua contro Grillo, diciamo la verità. Una polemica ridicola. Anzi, invito chi le conosce, mandateci un sms, una mail, quello che vi pare, un Twitter, un tweet, anzi, dateci le coordinate di casa di Grillo, per cui noi invitiamo i signori di Al-Qaeda, i signori terroristi, a bombardare la casa di Grillo. Dateci le coordinate, voi che conoscete dove si trova la casa di Grillo, dateci le coordinate, noi le diffondiamo via etere, così qualsiasi terrorista può colpire la casa di Grillo. Ho detto che se proprio vogliamo indirizzare i missili dei MiG francesi, allora gli diamo delle coordinate GPS giuste, e le coordinate giuste sono 41 gradi 54 primi latitudine nord, 12 gradi 28 primi longitudine est, è leggermente più a sud di Padova, è nella nostra capitale, un puntino nella nostra capitale, una cosa che non serve a niente, il nulla, il nostro Parlamento. Ho detto così e fin qui è scoppiato il casino, che io voglio bombardare il Parlamento. Sandro da Firenze, buonasera. Intanto, mentre si parla del cagnolino, del cagnolino di Monti, Grillo va, vola, sembra nei sondaggi, vola il cagnolino di Monti, capito, il cagnolino. Sandro, sì, da Firenze, Sandro. Sì, pronto, buonasera. Sì, ciao. Sì, mi faccia incazzare un po', su. Faccio incazzare. Allora, no, io penso che se continuo a parlare di Grillo, come sempre, quando ci sono le elezioni si parla di 3-4 personaggi, quelli vecchi, quelli antichi, come se si andasse a votare solo i personaggi. Poi il Parlamento è fatto di 700 persone. Ma, vabbè, Sandro, su, andiamo al sodo, dai, non ho capito niente di questo intervento. Che vuol dire? Ma allora Grillo, che tutti ne parlano male, perché quando dice no, chiaramente. Ma chi ne parla male? No, alcuni sì, altri no. Però se si va a vedere un attimino le persone che parlano la sera, cioè i futuri candidati, là si sente le persone che poi saranno nel Parlamento, capito? Cioè bisogna andare un po' oltre. Non ho capito niente, oltre. Sandro. Matteo da Monza, no. Buonasera, non ho capito nulla. Matteo. Salve, Cruciani. Vada. Ciao, Davide. No, volevo dire, per quanto riguarda, vabbè, stendiamo un velo pietoso su Razzi e gli annoni. Una voce un po' più squillante, Matteo, sembra un mortorio qui, sembra che sta in obitorio, dove sta? No, siccome lei voleva sempre gli ascoltatori, diciamo, che la facevano ridere, non quelli noiosi. Ma non lo so, dica una cosa, non faccia queste considerazioni generali, dica una cosa, che ho la borsa da dare, su, Matteo, rapido, veloce, sintetico, okay, allora, efficace. Allora, le do una notizia, Berlusconi lascerà, dopo, nel caso di sconfitta elettorale, lascerà, ho delle fonti certe, siccome vivo vicino a Arcore, no? Sì, allora? Ho delle fonti certe. Cos'è che lascerà? Cosa lascerà? Lascerà la politica. Lascerà la politica, ecco la stronzata delle 29, delle 19 e 29. Abbiamo la borsa, che vuol dire lasciare la politica? Matteo, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ah, borsa. Le spiego. Borsa. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Io la combatto. Il lavoro! Il lavoro! Questa parola maledetta che è diventata il lavoro! Il lavoro da andare a fare il carbone sotto 1000 metri non è lavoro! Il lavoro di fare studiare i tuoi figli, che li fai laureare, fanno il master a Londra, tornano e poi vanno a fare a impiegarsi in un call center a 500 euro al mese, quello non è lavoro! Che ci vanno i figli della Fornero a fare questo! Ma sentiamo Berlusconi che imita... Pochi minuti fa imita Bersani, Una televisione va fuori e felicissima di avere avuto la tua intervista fa un comunicato stampa. Estrae una frase dal contesto dei 45 minuti e dopo un po' senti Bersani che abbaia. Berlusconi ha detto un'altra... Ah no, lui lo fa con il dialetto... Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate... Ma la stronzata di oggi è la più grossa di tutte. Ha detto che farà 4 milioni di posti di lavoro. E no, non va. Dove sei, ma dove sei? Così vuole contestare Berlusconi, è sempre il numero uno da questo punto di vista, Parenzo, cioè, non c'è, c'è poco da fare, da questo punto di vista è sempre il numero uno. Imita addirittura il piacentino di Bersani per dire che lui non ha mai promesso 4 milioni di posti di lavoro. Dove diavolo sei? Dove sono? Sono in un bagno a fare la pipì. Luca D'Avellino, buonasera, 800240024. Luca, beh, i razzi ve li facciamo ascoltare più avanti, tutto, speciale razzi dopo le 20, speciale razzi. Chi c'è qua? Pronto? Vada. Pronto, buonasera, sono Luca. Ma sì, io non fermo restando nulla con i gay, anzi, sì, va bene le coppie di fatto. Di solito la premessa è sempre questa per dire le peggiori nefandezze. Vabbè, allora, andiamo al sodo, non mi sta bene che casomai una coppia gay debba far crescere un essere umano, questo e basta. Io credo che ci vuole una coppia, è certo, un etero, un uomo e una donna. E vabbè. Stop, una cosa naturale. Poi? Ma non sono d'accordo neanche con l'inserzione forzata, dove due donne devono portare forza avanti una, concepire un essere umano, o due uomini. Abbiamo ragazzi che sono sbandati perché vengono da, sono frutto di un divorzio, dove oggi il divorzio è più di un matrimonio, c'è una piaga sociale. Ma lo sai che io non ho capito, non ho capito nulla di quello che sta dicendo lei, niente, zero, non ho capito niente, zero. Lei, ho capito solamente che lei è contrario al matrimonio gay, all'adozione gay, va bene? Non sono contrario al matrimonio gay, vedi, se tu mi stai dicendo questo. No, innanzitutto gli ho dato delle lei che una coppia gay, sono contrario che una coppia gay faccia crescere un essere umano. Va bene, d'accordo, poi... Basta, Alfio da Padova, grazie, Alfio da Padova. Per dire sta cosa tre ore ci vuole, Alfio da Padova. Su. Buonasera Cruciani, buonasera. E intanto complimenti per la sua trasmissione. Vada. Poi, ecco, volevo dire, ma secondo lei, a prescindere da chi andrà a vincere questa competizione politica, ci sarà la volontà vera e seria di cambiare l'apparato dello Stato e quindi la Costituzione per rendere un po' più tutto più snello? No, per rendere... assolutamente no. E allora, allora mi tocca rimanere proprio deluso, insomma, però mi dicesse qualcosa di migliore. Ma che ne so, ma mandi a fanculo tutti. Rocco da Trento, buonasera. Sì, Rocco Andrea da Montebelluna. Rocco allora... Andrea, ma perché Rocco Andrea? Uno si chiama Rocco Andrea, perché Rocco Andrea? Vabbè, glielo chiederò ai miei genitori. Che ne so, uno si chiama Rocco, tu hai sentito qualcuno che si chiama Rocco Andrea, Parenzo, scusa? Ma io sento anche persone che si chiamano Maria Cristina, Francesco Enrico, ad esempio Speroni si chiama Francesco Enrico Speroni. Sì, d'accordo, ma Rocco Andrea non l'ho mai sentito, Rocco Andrea da Trento, vabbè, d'accordo. Ma non mi pare un ragazzo rispetto alle cose che abbiamo sentito. Da Montebelluna, vabbè, da Montebelluna. Sì, no, vabbè, quello che volevo dire, intanto dopo aver sentito l'ultima cavolata di Casini, secondo me, cioè, bisognerebbe istituire, non lo so, una commissione per dire: tu hai la capacità di relazionarti con il mondo, sì, allora puoi candidarti, perché sinceramente, detto da uno che è divorziato, che convive, che ha figli fuori dal matrimonio, che poi dopo... Vabbè, non è che se uno è divorziato non può dire di essere contro il matrimonio gay, No, ho capito, ma... Rocco, la stronzata è il paragone, l'accostamento tra la pedofilia e il... Beh, è proprio aberrante. E l'omosessualità. Non è che un divorziato non può parlare di matrimonio gay, eccetera, può essere contro il matrimonio gay, non diciamo stupidaggini adesso. No, ma è per dire la coerenza del personaggio. Vabbè, ma su quello si può discutere fino all'infinito, su cosa è coerente per un cattolico oppure no, cioè ci sono diverse teorie al riguardo. Il problema fondamentale è che è la cosa che ha detto, quando uno parla di omosessualità non si capisce, quando uno parla di omosessualità non si capisce perché bisogna fare per forza l'accostamento, come qualcuno fa, alla pedofilia. Sono due cose che non hanno nulla in comune, né nulla, nulla e nulla. Mi fate risentire l'imitazione di Berlusconi di Bersani? Beh, siamo al top qui, siamo al top, al top. Poi, secondo me non è neppure preparata come cosa, Non è neppure preparata. O sì, dici. Vabbè, comunque, no. L'imitazione di Bersani pochi minuti fa a Roma, la presentazione dei candidati per il Lazio del PDL, sentiamo. Una televisione va fuori e felicissima di avere avuto la tua intervista, fa un comunicato stampa, estrae una frase dal contesto dei 45 minuti e dopo un po' senti Bersani che abbaia. Berlusconi ha detto un'altra... Ah no, lui lo fa con il dialetto. Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate. Ma la stronzata di oggi, è la più grossa di tutte. Ha detto che farà 4 milioni di posti di lavoro. E no, non va. Ma è con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Ma ha sentito Berlusconi, che voto gli diamo a questa imitazione di Bersani? Non era proprio il top, però comunque insomma. No, però insomma. Non è male, per essere Berlusconi che la fa, Che dire? Senta una cosa, ma perché ce l'ha tanto con Giannino? Oggi è stata una cosa pazzesca, un editoriale, qui noi, qui a Radio 24 siamo tutti in subbuglio, grandi idee, piccoli Oscar della stupidità, megalomania, fuori chi lo conosce lo evita, perché fuori chi lo conosce lo evita? Scusi, questo mi ha incuriosito, Sallusti. Perché Oscar, che peraltro è un bravissimo professionista con il quale io ho lavorato per anni, ha questo piccolo problema dell'egocentrico, del resto si vede come si veste, come si comporta per attirare l'attenzione, e in questo egocentrismo io credo che questa volta abbia esagerato, perché dire io godrò se riuscirò a far perdere il PDL mi sembra una cosa che un candidato leader di uno schieramento liberale italiano avrebbe potuto anche evitare, insomma. Ma magari lui non ci trova niente di liberale in Berlusconi, cioè questo è il punto. Insomma, ci ha trovato molto di liberale per 18 anni, quindi difficile che poi improvvisamente, o ha sbagliato lui per 18 anni a sostenerne le politiche. Mi risulta che Oscar fosse un sostenitore delle politiche tramontiane. Sì, per un periodo, sì, per un periodo era sostenitore di Tremonti, ma credo tu, per come l'hai conosciuto tu, era berlusconiano? Ci puoi raccontare qualche episodio? Oscar non ha mai fatto politica, quindi non è che si può appiccicare l'etichetta di berlusconiano. Certo, come dire, ha sostenuto le politiche economiche del governo Berlusconi, come dire, mi risulta che non sia mai stato ostile neanche alla politica di Berlusconi. Ma qualcuno sosteneva addirittura che faceva il ghostwriter di Tremonti, o no? Ma questo ce lo dovrebbe dire Oscar, so che si dice... Non ho mai visto scrivere personalmente, quindi non lo so. Parenzo, oggi che vuoi? Pensi al metodo Boffo? Al metodo Boffo contro Giannino? Dici, no, perché? Voglio dire questo al grandissimo direttore Sallusti: è evidente che l'editoriale suo di oggi risponde alle paure del Cavaliere. Cioè, il Cavaliere sotto giorni continua a dire non votate Giannino perché ci porta via voti. Tac! Oggi arriva il pezzo in cui si spara in faccia a signor Giannino. È vero Alessandro che i sondaggi di Giannino in Lombardia sono 4%, superiori alla media. Io credo, non lo so perché non parlo col presidente dall'inizio della campagna elettorale, perché ha cose più importanti da fare che parlare con me. Ma credo che, come la pensa il presidente, Giannino ha tutto il diritto di fondare questo partito, e anzi, come dire, è stato guardato anche per esempio da me con grande interesse, perché quando si arricchisce uno schieramento, in questo caso quello liberale, non c'è nulla da temere. Poi nelle beghe della politica mi porti via il voto, non sono problemi miei, io non faccio politica, ma io sono rimasto, come dire, offeso, mi sono sentito anche tradito in quanto liberale da un liberale che in televisione dice il mio obiettivo è far perdere i liberali. Allora il tuo obiettivo è un obiettivo, non è un programma politico, è un'ambizione personale. Io l'ho contestato su quel punto, non sulla legittimità di fare un partito e di prendere tutti i voti che ritiene. Ma cosa c'è sotto, secondo te, questa cosa qui? Cioè perché lui ha maturato questa avversione viscerale nei confronti di Berlusconi, che è superiore anche a quella nei confronti di Bersani o nei confronti di Monti? Ma credo perché lui aveva, immagino io, da quello che abbiamo letto, da quello che si sa nei mesi scorsi, che il suo programma era ben diverso, cioè era quello di entrare in uno schieramento più ampio, che poteva andare all'epoca che si parlava di discesa in politica di Montezemolo. Lui ha cercato di fare un po' il federatore di quell'area che non aveva mai preso. Ma secondo te non lo vuole nessuno? La Merciagalli, no, in questo senso, se lo conosci lo eviti, nel senso che lui non è un aggregatore, è disaggregante come profilo personale e professionale, che non vuol dire che è uno stupido, dire che è disaggregante. E quindi è difficile aggregare qualcosa attorno, perché lui vuole essere comunque il primo della classe, comunque comandare, e quindi quell'operazione di aggregazione gli è fallita, e si è trovato, come dire, il mezzo arguardo con un partito che viene dato, per carità, io ripeto, di tutto rispetto, i sondaggi lo danno chi all'1,5, chi al 3, chi al 4, Del resto ci sono sondaggi che danno la distanza del PDL e PD al 2 e altri che lo danno all'8, quindi i sondaggi mi sembra che in questo momento lasciano un po' il tempo che trovano. E quindi ha reagito così, con isteria, come fa lui, anche sul lavoro. Insomma. Vabbè, però d'altra parte se uno lo attacca direttamente e gli dice ritirati, a me risulta che tra l'altro si siano incrociati in uno studio televisivo e lui l'abbia esortato, poi ormai non si può più ritirare, questo è il punto. E cosa dovrebbe dire secondo Berlusconi? Dovrebbe dire... No, ma io non so cosa dovrebbe dire secondo Berlusconi, ripeto... credo che neanche Berlusconi messa, beh, è ovvio che Berlusconi dice che è una teoria che ha un senso, non è l'unica ma ha un senso, qualsiasi voto in questo momento, soprattutto al Senato, sottratto al PDL è un voto e quindi è legittimo il ragionamento di Berlusconi, ma non è che Berlusconi, ma ci poteva pensare prima, però vuole impedire, non lo so, ma non è un problema mio se doveva pensarci prima o dopo. Vabbè, io tu sto ti dicendo sei... che Giannino ha tutto il diritto di fare campagna elettorale, di farla anche per marcare le distanze, le differenze da Berlusconi, quella di dire io godo se il PDL perderà, e capisci che vuol dire io godo se Bersani e Vendola governeranno. Non capisco cosa c'è di liberale in questo. Parenzo, che vuoi? No, ma dico, ma è evidente che il mondo cosiddetto berlusconiano, al quale non ascrivo il direttore... Ma tu affideresti l'economia del paese a Giannino, Alessandro? No, non li affiderei, credo neanche neanche casa mia, nel senso che è un personaggio, ma perché è un personaggio bizzarro che ha tantissime doti, ma non l'affidabilità dal punto di vista della gestione delle cose. È un mezzo matto, però tu mezzo sai matto. Qualcosa, dici, raccontaci qualche. È un one man show, cioè è un mattoide, funziona... cos'è? Un mattoide. Beh, un mattoide, ripeto, anche intelligente. Beh, certo, uno che va in giro vestito così, secondo i nostri standard di normalità, non è normale. È una via di mezzo tra un dandy e un genio, ma spesso un genio incompreso, perché poi tutta questa genialità non si capisce bene dove è sfociata in questi anni. È stato prima Tremontiano, poi è stato con la Marcegaglia, poi si è avvicinato a Montezemolo, poi ha tentato di avvicinarsi a Monti, e poi adesso manda tutti a quel paese. Cioè, non si capisce bene cosa vuole e con chi, almeno che nella sua immensa arroganza pensi di essere lui quello attorno a cui gli altri dovrebbero aggregarsi, quindi essere lui il leader massimo, ma così non è. Scusate, ma c'hai dipinto un'immagine da visita psichiatrica quasi. Ma io credo che in questo ha delle cose simili a Berlusconi. Berlusconi ha scritto in una prefazione che il mondo lo mandano avanti matti, per cui in questo senso sì, è matto anche in questo senso Giannino, poi magari manderà avanti il mondo. Poi ci sono dei matti che il mondo lo mandano avanti, dei matti che il mondo lo distruggono. Scusa, a vedere a quale delle due categorie lui appartiene. Scusa, ma quando tu dici che non gli affideresti manco il condominio o casa tua, significa che quando c'ha qualcosa in mano la distrugge? Beh, nella vita professionale è stato così, ma non per incapacità professionale, ripeto, sarei stupido se dicessi che Giannino non è un bravo giornalista, è un bravo professionista, ma forse non so che cosa, insomma, uno che stava in redazione tutto il giorno col gatto, che viveva nel suo ufficio, cioè, non è che lo portava in ufficio, il gatto viveva nel suo ufficio e quando tu entravi in ufficio venivi sbranato da questo gatto che non ne poteva più riuscire, capisci che io dovevo avvisare che avevo bisogno di parlare con lui e ci trovavamo a metà strada perché io non potevo entrare nel suo ufficio perché una volta che l'ho fatto il gatto mi ha distrutto. No, ma scusami, giustamente un gatto che resta per 6 mesi chiuso dentro un ufficio ha dei problemi anche il gatto. No, ma scusa, non ho capito questo direttore, ma questo gatto è un rompicoglioni pazzesco, un manzo enorme, che è il gatto di Giannino? Il gatto di Giannino è una cosa notevole, io non l'avevo mai visto il gatto di Giannino. Non ho capito, sbranato dal gatto di Giannino. Sbranato dal gatto di Giannino con una puzza di pipì di merda di gatto che inondava tutta la redazione, capisci? No, ma scusami, anche la puzza di merda c'era nello studio. Insomma, è un gatto, cioè, i suoi bisogni deve fare, giustamente. Ma non era colpa del gatto. Insomma. È più pericoloso il gatto di Giannino o le inchieste della Boccassini, secondo te? Beh, fra tutte e due è un match, insomma. Però, vabbè, ma scusa, vedi che già andando a scavare... No, ma guarda, io sapevo questa cosa, andando a scavare qualche cosa viene fuori dall'esperienza concreta poi di accostamento tra Sallusti e Giannino. Sì, ma Oscar è uno che non mangia, millanta, ma credo che sia vero per dei problemi fisici, probabilmente anche seri, che ha avuto, che ha... non mangia, e poi ho dei testimoni che viene sorpreso di notte a svuotare le 3 di notte a svuotare i frigoriferi, quindi ma per Millanta, tu dici Millanta i suoi problemi fisici, dice? No, no, no, questo non lo so, voglio dire, lui non mangia, ma non è che non mangia perché dice per una scelta etica, non mangia, sostiene, per, immagino sia vero, per un problema fisico. Ma se poi dici che hai tre di notte, hai tre di notte, se mangia. No, sta di fatto che alle tre di notte svuoti i frigoriferi, mi dicono, quindi... ci stai presentando un quadro inquietante, inquietante. Ma, Oscar è inquietante, ma io voglio anche bene Oscar, però mi sono sentito tradito, cioè non c'entra Berlusconi, vorrei tranquillizzare Parenzo, mi sono sentito Berlusconi. È settimane che va in giro a dire che il giornale non ha mai riportato questa ostilità, ma quando uno dice io godo se perde il centrodestra, beh, oddio, no, mio, ce la faccio, immagine del gatto con la bibì, cioè, è strabiliante. Ma quindi c'è proprio, c'era proprio, dopo un che deve... una quando andò via fu licenziato, che poi ha vinto la causa, da quello che mi risulta, comunque vabbè, al di là non di... lo so, non ho più seguito, ma credo di sì, non lo so. Ma una volta che andò via, poi che avete dovuto fare lì, avete chiamato? Beh, abbiamo disinfettato tutto, l'ufficio senza dire nulla è stato affidato a un nuovo venuto, senza dire nulla, perché se uno diceva qualcosa può darsi che non entrava più nessuno là dentro. Vabbè, ma scusa, ma poi sapeva amministrare, so già, dal punto di vista economico, dato che si parla sempre di economia, era capace, oppure anche là c'erano buchi pazzeschi in questo libero mercato? No, è uno che almeno io lo conosco nella gestione di libero mercato, che era assolutamente di libero, di cui ero direttore, è uno che giustamente pretendeva dei mezzi che però erano sproporzionati con le possibilità dell'azienda. C'è un megalomane, dice. E quindi alla fine il libero mercato è stato chiuso non perché il prodotto fosse non all'altezza, perché ripeto parliamo di uno dei più bravi giornalisti economici, ma perché i costi erano, cioè costava più libero mercato di libero, e questo non abbia nessun senso. Cioè non sa fare i conti, dici te. O li fa pro domo sua, ecco. Non sa fare i conti, cioè si propone come quello che sa i numeri e secondo te non sa fare i conti, non sa fare i conti. No, oppure li sa fare molto bene, ma ripeto per un suo fine personale, insomma, non per il bene dell'azienda nella quale lavora. Senti, ma lo dico con simpatia. No, ma certo, sempre con simpatia. Lo dicevi con antipatia, non lo succedeva. Però se dice Parenzo, figurati se lo dicevi con antipatia. No, voglio dire, qui c'è una questione. C'è un ufficio che puzza di merda di gatto, non sa fare i conti, cioè, no, ma lo dico con simpatia, te la manca solo con un cornuto coglione. No, non si può, Giannino non può essere antipatico nel senso comune della parola, perché è talmente bizzarro, è talmente un divago che è simpatico alla fine comunque. Oggi ha detto, stamattina ha detto, dopo aver letto il tuo editoriale, non faccio parte del Giro Santanchè. Sbaglia anche lì, perché la Santanchè raccoglieva la pubblicità per libero mercato e ti assicuro che era assolutamente nel giro. Ha passato tante cene a non mangiare a casa della Santanchè, quindi per cui bene. Conosce bene e faceva parte del Giro Santanchè, dici tu, a voglia. In quel periodo della vita, beh, essendo quello che raccoglieva la pubblicità, evidentemente ci aveva a che fare, non mi risultava che la cosa lo disturbasse più di tanto. E poi era disperata Daniela quando doveva andare a raccogliere la pubblicità per libero mercato? No, perché l'idea non era malvagia, adesso a parte questo, c'è una oggi Giannino, tra l'altro, ha detto solidarietà a Sallusti per un editore che abbaia. Non ho capito, per via del cane, non lo so. No, per la solidarietà a Sallusti per un editore che abbaia, cioè Berlusconi, che dice che tu hai scritto una cosa sotto dettatura di Berlusconi. Questa no, vabbè, ti ripeto, Berlusconi è giorni e giorni che dice questa cosa e il giornale non l'ha. Vabbè, però non c'è bisogno di parlare, basta che dopo qualche giorno, ma guarda che secondo me tu puoi scrivere quello che ti pare. C'è la coincidenza con quello, infatti io non sono deluso da. È la frase, del Wolf, perdere godo se perde il centrodestra, questo t'ha colpito. Io non godo, io spero che vinca, ma non è che godo se perde o se non perde. Tu voti PDL, voti PDL a Camera, Senato? Io immagino proprio di sì. A spada tratta? Non credo che sia, a spada sguainata, come si dice? No, spada sguainata, con la matita, come tutti gli italiani. Ma un po' col naso tappato? come alcuni milioni di italiani. Al naso tappato a pieni polmoni, no, respirando a pieni polmoni. A pieni polmoni, perché poi tra l'altro in politica e al momento del voto è ipocrita pensare di scegliere il meglio, bisogna anche scegliere il meno peggio. Ma Berlusconi è meno peggio? Ma io credo che le offerte che sono sul tappeto continuano a rimanere la meno peggio, non sarà quella perfetta, non sarà. Ma è meno peggio. Va bene, ultimi minuti con Sallusti, dopo che sei a 8:30 stasera, no? Sì, 8:30. Disastro, abbiamo altri due minuti, dopo la pubblicità, 800 24 00 24. Non potevo entrare nel suo ufficio perché una volta che l'ho fatto il gatto mi ha distrutto. sbranato dal gatto di Giannino con una puzza di pipì di merda di gatto che inondava tutta la redazione, perché giustamente un gatto che resta per sei mesi chiuso dentro un ufficio ha dei problemi anche il gatto, capisci? Zanza, zanza, zanzare. Io trovo in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Basta! Zanza, zanzare. No, ma metteteli l'altro, quello più forte di Giannino. No, basta questo qua, il triplo basta che chiuse la sua trasmissione Radio 24. Su, il triplo basta voglio. Basta! Basta! Basta! Voglio sapere la Sallusti. Vedi, è la dimostrazione che ho ragione. Cioè? Passo? Beh, è un tipo bizzarro, no? Bizzarro. Ma io l'ho trovato eccezionale radiofonicamente, ovviamente. Beh, bellissimo. Era il basta, era il basta contro le tasse su cui dovessi essere d'accordo pure tu. Cioè Alessandro Sallusti dovrebbe votare Giannino, questa è la realtà. Certo. Ma non lo voteresti no, mai? No, ma io se Giannino avesse dimostrato di saper aggregare la maggioranza del paese io l'avrei votato volentieri, nel senso che ma è questo che non capisco, come fa lui a dire sogno di far perdere l'unico partito che dice basta le Beh, perché le, perché le pensa tasse. Che quel partito lì non è lontano dalle cose che pensa lui. Ma allora si becca un partito che dichiara di non volerla abbassare, quindi cioè deve stare col meno peggio, dici tu, dovrebbe stare col meno peggio, sempre il meno peggio. Ma è vero o no che ci sono 10 mignotte candidate nel PDL, come ha detto il tuo amico Feltri? No, io no, questo non ho fatto l'analisi grammaticale ai candidati del PDL. Mi spiace che Feltri non abbia fatto i nomi, perché se è a conoscenza di qualcosa del genere sarebbe stato più giusto fare i nomi. Dovrebbe fare i nomi, dici tu, eh? Eh beh, se io dico che so che in una lista ci sono dei pedofili, forse uno mi dice ma chi sono? Però è diverso, un conto è menofilo, un conto è pedofilo, un conto è mignotta, cioè mignotta non è un reato. Ma lui diceva mignotta, nel senso lui voleva dire, diciamo la verità, io e te lo sappiamo Parenzo cosa voleva dire. Voleva dire che ancora una volta nella lista del PDL Berlusconi ha candidato persone che sono transitate dal suo letto, diciamola tutta, cioè, o che l'hanno già fatto, sì Berlusconi, Feltri, o che l'hanno fatto nel passato. Questa è la sostanza, lo sappiamo sia io che Parenzo quello che voleva dire. Però i nomi non l'ha fatti effettivamente, no? Sallusti. No, non mi risulta, no. Per cui resta il mistero. Ma tu non gliel'hai chiesto? No, abbiamo altro di cui discutere. Ma non parlate mai, parlate ogni tanto tra di voi, sì. Sì, tutti i giorni. Ma come sta il mio amico, il grandissimo Cervi? Ma che c'entra Cervi? Adesso questo qua deve scomodare Cervi. Cervi è un monumento di questo giornale, tutti i giorni viene a lavorare nonostante i 90 e passa anni compiuti. Ecco. Le domande di Parenzo. No, perché non le domande, ma che non, cazzo di domanda è? Cioè, mi è venuto in mente, non perché era legato alle mignotte. Cioè non è che ah no, appunto, dico, uno va ma perché è un'istituzione del giornale. Ma chi se ne frega, con tutto il rispetto. Come so che, ma no, sai, c'è un motivo, sei stupido. Mi fai fare una domanda abbiamo che dopo devo liberare, perché, devo liberare Sallusti un attimo. Ma ti spiego perché, perché abbiamo parlato del gatto di Giannino e Mario Cervi va tutti i giorni al lavoro con Goria Terzo, che è il suo cane. Vabbè. Sì, non tutti i giorni, ma ogni tanto lo porta, però insomma lo porta e lo porta fuori. Non lo lascia dentro come Giannino a pascolare con la pipì alla merda, dici tu. No, i bisogni li fa fuori, il cane di Cervi i bisogni li fa ma fuori. Ma tu a te ti hanno chiesto di candidarti? Voglio una confessione sincera. No, non mi hanno mai, ufficialmente non me l'hanno mai chiesto. No. No. E invece Sallusti, prima di votare per Berlusconi, chi votava? Tu hai sempre votato per Berlusconi al 94 in poi? No, ho votato Partito Liberale all'inizio, sì. Ho votato una volta, la primissima volta a 18 anni ho votato Miss per una storia personale. In che senso? Poi ho votato Liberale a lungo e poi forse qualche anno nelle famose votazioni borderline della diga, del Turiamoci il naso, credo di aver votato anche DC. No. Poi ho votato Lega prima che arrivasse Forza Italia e poi Forza Italia. Vabbè, sempre Lega. Voti moderati. Vabbè, voti moderati, certo, voti moderatissimi mi sembra, in alcuni casi. No, Partito Liberale voto moderatissimo, era voto partito storico degli industriali italiani. Poi una volta la DC, certo, la Lega. Poi che vuol dire sta parola moderati? Non la odio, non la sopporto. Perché hai votato Movimento Sociale la ma prima io volta? Votavo DC perché essendo un lettore del giornale, una mia di Montanelli cioè, fu il famoso invito a turarsi il naso perché c'era il pericolo del sorpasso del Partito Comunista. Ma perché Movimento Sociale votavi all'inizio? Ma per una questione personale che adesso è inutile annoiare. No, come no, che annoiare è una cosa interessantissima. Qual è la questione personale? Ma l'hai detta. Ma il primo voto mi sembrava giusto, la prima volta che uno votava, dare una specie di tributo a mio nonno che che era rimasto coinvolto malamente in quelle vicende. Quindi... Cioè, tuo nonno era un repubblichino? Che fu fucilato, sì, fu fucilato. E quindi mi sembrava così. Una questione affettiva personale. Vabbè, grazie, a presto. A presto a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada. Hai capito, Parenzo? Ho capito, sì, ma lo sapevo io. Che hai capito? No, conoscevo la storia. Sì, forse, forse era nota, ma non mi ricordo bene. Come? Comunque ha detto Feltri faccia i nomi delle mignotte, eh. Un po' di... Dovrebbe fare i nomi, C'è la guerra interna. Ma perché tu non vai là dentro a chiedere questa storia delle mignotte di Feltri? No, sono uscito, mi sono messo al telefono fisso perché dentro non si sentiva nulla. Meno male. Beh, c'è ancora Berlusconi che parla comunque, è un'ora e mezza che parla, una cosa pazzesca. Cioè. Beh, infatti c'è quello che ti posso dire è che sono le ambulanze fuori pronti a soccorrere gli anziani che erano andati lì pensando che gli fornisse subito i soldi dell'IMU. Infatti c'erano gli anziani, erano andati tutti lì. Sì. Dicendo, ecco, è arrivato Berlusconi, ci dà l'IMU. Pensavano che già oggi facesse subito la restituzione usando i soldi suoi che ha da parte, no? Ma dove ti sei messo dunque? No, tanto per sapere, perché la mia indicazione è quella di appena finisce Berlusconi e il pubblico defluisce, tu ti apposti là fuori e insomma fai un po' di cinema là. Ma io ero tornato verso la 7, ma se vuoi torno lì. Ma no, ma non capisci niente, ogni volta un casino, niente, non puoi fare niente di quello che ti dico. Antonio da Varese. Antonio da Varese, su. Antonio. Non volevo che si scaricasse a un certo punto il telefono. Va bene, meglio così, allora, meglio così. Antonio da Varese, su. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Sentite, volevo parlare del discorso brevemente, del discorso dei rimborsi dei consiglieri regionali del PD. Sì. Sinceramente la cosa mi fa molto incazzare, il fatto che nessuno ne parli. Ma cosa le fa incazzare? La Nutella del signor Spreafico o per esempio l'aragosto, non so che cosa, della signora Fattuzzo? La piadina alla Nutella, il libro di John Grisham ammesso e poi rimborsato, messo nelle spese e poi rimborsato. Così come le 3.500 euro spesi in enoteca e poi dicendo no, erano i bambini, insomma. E mi fa incazzare il fatto che i vertici non abbiano preso le distanze, come dire, insomma, non è che siamo proprio coglioni che sentiamo dire che... Beh, un po' di distanze l'hanno presa, No, però voglio dire, sarebbe, insomma, dire rimborsabile, ecco, quello secondo me sarebbe stato un gesto. Ma ancora l'inchiesta deve arrivare ad una sua conclusione. Comunque lei è incazzato con queste cose. Guardi, sono incazzato anch'io come una bestia, per cui ne siamo in due. Evidentemente poi dal rilievo penale. A me mi fa incazzare più la Nutella di 2,70 euro che la mazzetta, le posso assicurare. Cioè, come testa mi fai. Cioè, la mazzetta posso anche capirlo. Uno dice: beh, sono un ladrone, mi voglio fare la casa nuova, voglio ristrutturare la stanza e mi faccio dare la mazzetta. Sono un amministratore corrotto, vabbè, rischio, eccetera. Ma sgraffignare 2,70 euro per la Nutella è una cosa da cialtrone. Della metropolitana, ecco, la cosa secondo me che avrebbero dovuto mettere in risalto era che, comunque, indipendentemente da quello che accerti la magistratura, dal punto di vista politico, è una figura di merda. Va bene, Maurizio, della provincia di Grosseto, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, vada. La ringrazio per poter intervenire. Dica. Senta, io la mia telefonata è per porre un accento sulla completa assenza. Io sono un candidato con la lista Io Amo l'Italia di Magdi Cristiano Allam. Cioè, scusi, lei è candidato, è candidato con la lista di Magdi Allam? Sì, sono il numero 3. No, per capire, per carità. Cioè, ma Magdi Allam è alleato di Berlusconi, no? No, assolutamente no, guardi, noi non siamo alleati con nessuno. La mia telefonata, mi scusi, non è assolutamente per proclamare le nostre alleanze, perché noi alleanze non ne abbiamo. Non era solamente per porre un accento, sul fatto che i nostri media italiani e quindi anche voi omettete assolutamente. Cosa omettiamo? Scusi, Maurizio. Omettete assolutamente di rappresentare agli italiani che la nostra lista Io Amo l'Italia è presente con il nostro candidato premier in corsa per le elezioni. Chi sarebbe il candidato premier che vuole guidare l'Italia? Scusi, ce lo può indicare? Magdi Cristiano Allam, guardi, e dovrebbe conoscerlo perché è un noto giornalista ed anche europarlamentare. Noi saremo, a parte che da noi non viene più perché una volta l'abbiamo preso in giro, può darsi che sia vero sulla questione di Strasburgo, dei rimborsi, eccetera, eccetera. Io non lo so questo, però io prendo. Se uno vuole venire qua, io la sento. Io la sento tutte le sere. Sì, Maurizio, scusi un attimo, se uno vuole venire qua e fare il compitino, esporre fare il suo comizietto, esporre le sue idee senza essere interrotto, non è questo il luogo, per cui no, noi... no, ma assolutamente, ma ce l'ha con me questo oppure con no Tommaso? No, ma no, in generale detto, la usiamo gentilmente come ambasciatore nel dire, nel promuovere al dottore onorevole Magdi Cristiano Allam, se vuol venire alla Zanzara, io amo l'Italia e vabbè, la amiamo anche noi, e però ma si fa certamente, ma guardi la mia telefonata, vabbè, non insomma, era oltre per a protestare, oltre a protestare, capito, a protestare perché non vi danno spazio, cosa vuole Maurizio? Che cosa vuole? Lei c'ha sempre questo modo molto gentile e molto cordiale. Non di si preoccupi, lei mi può insultare, la posso insultare. Io le volevo solamente dire che io comunque l'ascolto tutte le sere, quindi sì, al di là di questo, sì, anche se la sua trasmissione a me non piace al 100%, ma accetto tranquillamente allora... che ci siano delle oddio, situazioni diverse. La telefonata era anche per intervenire sull'intervento, per intervenire su quello che era stato la presenza di Giannone. E sul discorso unione civili, un attimo, ma no, non è un attimo, qui non sì, è un attimo, ma, lei, ma non sia così brusco, un attimo, lei ha questa cattiva abitudine, ma cattiva è per lei, sarà cattiva per lei anche quando va in televisione e cosa, cioè, probabilmente lei deve dare il tempo alla gente di parlare, ma è questo suo prestapochismo di dar pochissimo tempo. Senta, qui i tempi li decido io, dunque se lei va al sodo, se lei va al sodo, bene, altrimenti lei la taglio e padrone, mando la pubblicità, me lo dica. Lei è perfettamente allora devo mandare la pubblicità o possiamo andare alla conclusione di questo discorso? La conclusione del discorso è anche questa qui, a parte quella di come dire invitare tutti quanti i media sì, a dare il giusto risalto. Ma ha rotto le scatole, mandatemi una canzone su. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, ritorno chez toi. Tanto sta continuando a parlare, candidato di Magdi Cristiano alla protagonista di uno scontro con Pannella che risentiamo velocemente. Perché vogliamo essere rappresentativi degli italiani comuni, abbiamo delle persone che possono essere, diciamo, indicate per una celebrità. Ma tu sei un talebano comune, non sei un italiano comune. Ecco. Sei un talebano comune. Comunque, se mi posso io permettere, credo che la conduttrice dovrebbe intervenire per questa offesa in diretta. Non mi molesti moschito. Ma di che parliamo, signori miei? Di cosa stiamo parlando? Su, pubblicità, pubblicità. Ha dei problemi anche il gatto, capisci? Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Eccoci qui, 800 24 00 24. Alessandra da Milano, buonasera. Berlusconi sta chiudendo il suo comizio a Roma, sentiamo. Viva il popolo della libertà. Parenzo, dillo anche tu, evviva! E questo è il popolo della libertà. Aspetta, senti. Gente che... Tutti insieme. C'è un grande sole che vive in noi. Beh, come? Non c'è più nulla. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Alessandra! Ti segnalo che il tassista che mi sta riportando alla Maison, sì? Appena ho accennato le strofe di questa bellissima canzone, stava aprendomi la porta del taxi e mi stava eiettando fuori, vero o no, signore? Per forza. Sarebbe comodo a tutti per 6-7 mesi, ma poi famo un botto di quelli brutti. Hai capito? Ma te vogliono cacciare, non ho capito, te vogliono cacciare. No, mi ha detto il tassista. Sei sette mesi di ripresa ci sarebbero, ma poi dopo il botto sarebbe ancora più forte. C'è la consapevolezza che non puoi restituire l'IMU e fare un buco di bilancio pazzesco. Ecco, spiegala la cosa. Però fai fare un discorso serio al tassista. No, ma infatti dico, il tassista ci fa un bel editoriale su questo ritorno di Berlusconi, noi che siamo in mezzo a questo traffic jam, no? Lei come lo vede questo ritorno di Berlusconi? Al 20 ci arriva. Eh? Al 20 ci arriva. Ma le piace o no a lei Berlusconi? A voglia, le sta a fascenne. Capito. Ma chi vota il tassista? E chi vota lei? Signor Monti vota? No, l'errore l'ha fatto Bersani. Dovevamo andare avanti Renzi. E quindi chi vota lei? Nessuno. Come nessuno? Grillo? Non è possibile votare. Ma puoi votare, ma non ce n'è uno fatto bene. Hai capito? Grillo, chiedi se vota Grillo. Ma Grillo, Giannino. Fascisti. Giannino però non arriva al 4. E quindi? Grillo è fascista, Casa Pound sono ancora più fascisti. Vendola, non si sa chi è, Bersani lasciamo perdere, Monti pure. Chi è rimasto? Nessuno, vedi, c'è un po' di, come dire, Mastella? Mastella, no, la moglie. Preferisco la moglie. Leonardo. Voto la signora Leonardo. Conosce benissimo la famiglia Mastella. Ma certo che conosce la politica, tutta la politica, perché pensi che sia un coglione. No, mi stupisce. Non vota nulla. Il signor Cruciani è stupito delle sue conoscenze politiche. Ah no, infatti Cruciani non lo conosce. No, ma infatti non è candidato. Ma io voterei lì Grillo se non fosse fascista. Ma perché è fascista secondo lui? Perché è culturalmente fascista, ha ragione. No, perché lui propone il popolo, poi deve lasciar fare il popolo, no? Che poi il popolo dice fate quello che dico io. Tu metti avanti il popolo, se si sono comportati male, non li ricandidi la prossima volta con 5 Stelle. Certo, li capito? Dicono una parola e lui prende e li mette riga. Capito? Ho capito, però questo è il Parenzo pensiero, diciamo, no? No, lui mica l'ho imbeccato io, sai, cioè la persona deve avere rispetto delle opinioni che noi raccogliamo ogni giorno per strada. No, veramente ogni giorno no, però insomma va bene. Noi ogni giorno facciamo grandi inchieste sul territorio per capire qual è lo stato di salute del paese, il clima, cosa pensano le persone. In realtà tu lo sai che dovresti fare, adesso mi invento un format per gli ultimi giorni, in taxi, dovresti stare in taxi. E chi me lo paga poi il taxi? Lo pagheremo noi, adesso farò domani un consulto qua, se mi danno via libera, se qualcuno dall'alto mi dà via libera, ti paghiamo 30 euro di taxi al giorno e... No, più di più, 80 almeno. 80 euro di taxi al giorno? No, non succede, non te li possiamo dare. Non me lo vabbè, 30 euro va bene, non facciamo l'accordo con... Ma poi fai a mezzi con la 7, rubi un po' di rubacchi un po' di soldi alla 7, là dai. No, dai, ma come dai, ti permetti? Dai rimborsi. Ma assolutamente no, ma vergognati. Ma è con noi il mitico, intramontabile, testé citato, anzi è stata citata la moglie. Una cosa incredibile. Ma chi era Parenzo? Chi era? Clemente Mastella, buonasera. Buonasera, ma chi era prima che ha detto preferisco la moglie? Ma un tassista, lei deve essere contento, Mastella. Deve essere contentissimo, che sta col viva voce lei, Mastella? No, assolutamente no. Va bene. No, volevo sapere chi fosse, se era Parenzo o era uno che... No, un tassista, un tassista. Parenzo non si permetterebbe mai di dire una cosa di questo tipo. Poi comunque non c'è niente di male, Mastella, adesso non faccia l'uomo del sud. No, anzi, volevo ringraziare il tassista, mica... Allora, più giovane di me, quindi... Come sta? Aspetta che c'è... Più intelligente, ha più senso, come dire, di introspezione delle cose, di poter risolvere i problemi come tipico della donna rispetto all'uomo. Ma perché non si è candidata lei? Lei non si è candidata, è già europarlamentare, perché non si è candidata sua moglie a questa tornata? Ma guardi, mia moglie è consigliera regionale, quindi non è che uno si può candidare ad ogni a tutto, sospinto. Ogni elezione che arriva è... insomma si candida. E poi diciamo la verità. Diciamo la verità. Il sistema elettorale è tale che anche se hai un certo tipo di consenso particolare, non puoi sfruttarlo per la semplice ragione che le modalità sono tali che ammazzano chi ha questo consenso. Più ce n'hai e peggio è. Noi Mastella siamo un po' fregati per questo. Noi Mastella abbiamo consenso, però questa legge elettorale ci ammazza. Ah, cosa pazzesca. Ma come... io sono uno che sono sempre stato molto molto libero, quindi come tale nei giudizi nel... Ma sento una voce un po' abbattuta, Clemente. Sento una voce un po' moggia. Che è successo, Mastella? No, assolutamente no. Sono reduce da un incontro così di natura un po' particolare. Che è successo? Medico? No, niente di che. Cose personali, niente di politica. Ormai tanto è tutto finito, no? No, guardo con distacco questa Con distacco. Situazione. Che c'è, Parenzo? Che stai facendo? No, sto dicendo che l'unica cosa che accomuna me e Mastella è il segno zodiacale, che è dell'acquario, e tra poco credo che sia il compleanno di Clemente. Ti ringrazio molto, ma 5. Ma che? Dove? 5 che? 5 febbraio, ero a Strasburgo il 5 febbraio. Ah, allora, adesso il 5 febbraio. Sì, sì, ora, ora, ora, ora. Sì, però ora. Che voce bassa, Mastella. Che, no, che è successo? Oggi, no, il telefonino, io oggi è successo qualcosa. Sento un po' così in ricaduta negativa sul piano del mezzo meccanico. Ma è successo qualcosa, è successo qualcosa, non so, deve essere successo qualcosa. Ma non è che lei, dopo questa delusione di queste elezioni, per cui si è no, detto... No, deluso per il dato politico, in termini personali la delusione può avere... Ecco, ma dopo il Parlamento europeo, non è che ci faccia questo annuncio, mi ritiro dalla politica. Ma io no. Mi ritiro dalla politica, mi ritiro dall'entrata nelle istituzioni in termini parlamentari, in termini elettivi, questo credo proprio di sì. Ah, cioè dopo far politica, sì. Continuo a far politica, cioè no, ma questo è un annuncio importante, sì, dopo il 2014, quello che è, esatto, per il prossimo anno, cioè nelle istituzioni in termini, diciamo, di elezione diretta, assolutamente credo non che, mi candido più. Non ho più questa voglia. Non mi candido più, dillo, no? Quindi è giusto. No. Sì, non mi candido più. Oh, però ecco. Se lei mi dice non far politica, no, insomma, beh, quello uno politica la fa tutta la vita in mille modi, come dice a quello che, come dire, pur senza Viagra, che ha capacità di non fa più l'amore, quindi io continuo a fare l'amore politico, quindi non mi tiri indietro. Per lei la politica è stata come un come un amplesso, diciamo, no? Esattamente, per cui io non voglio, come tale, se posso dare un'opinione, se posso fare un po' l'allenatore di persone più giovani da portare avanti, credo che, insomma, al di là di questa forma di nuovismo particolare... Però il Viagra no, dice, il Viagra per entrare in Parlamento La saggezza non è che si recupera col Viagra, non è che, insomma, sostituisci qualche saggio con altri meno saggi, E questo soltanto in virtù dell'anagrafe. Però Parenzo, abbiamo avuto una notizia: dopo le elezioni europee non mi candido più, non mi candido più, farò solo petting, per rimanere nella farò metafora. Solo petting, dici tu, no vuole continuare a fare l'amore, no faccio l'amore politico, non petting. Il petting è una cosa un po', però il Viagra non lo voglio prendere per i ragazzini, non per uno che, come dire, ha fatto amplessi fino ad ora con la politica e dopodiché continua a farle in maniera diversa, però. Senza Viagra, senza Viagra. Le stagioni della politica, le stagioni della vita valgono anche le stagioni della politica, quindi anche per me. Sì, certo, ma bisogna ammetterlo, che tristezza, per esempio, vedere, che ne so, quel De Mita al Parlamento europeo ancora lì che si batte come un pazzo, dai, quella è un po' una tristezza, su. Non viene mai al Parlamento europeo, De Mita, sempre assente, il suo conterraneo, su. Ci sono delle cose che succedono che sono anche sgradevoli, no? Se uno non ha più voglia, non ha più voglia, non è che uno... viene eletta al Parlamento europeo e poi non ci va mai, per esempio, per fare un esempio. Senta, Mastella, non è che lei mi ha ingrassato in questo periodo, no? Che non la vedo da un po'. Ma insomma, così, un pochino, quindi evidentemente se hai minore attività di natura febbrile, sì, e di natura operativa politica, è ovvio che sei un po' più sedentario. E poi Strasburgo e Bruxelles si mangia di una pesantezza enorme, diciamola tutta. Sì, si mangia male. Si mangia per male. Fortuna recuperiamo, perlomeno io recupero frequentando gli italiani, quindi i ristoranti italiani. Sì, comunque mi dica la verità, ma lei, sì, ma che ci sta a fare a Strasburgo e Bruxelles? Cioè, non si è rotto le... Mi faccia compiere l'atto definitivo. Ma non si è rotto le scatole? Mi dica la verità, si è rotto le scatole? Vuole che mi rimetta prima? No, quello no, quindi, per carità. Fra un anno e poi dopo vediamo che succede in Italia, perché qua se le cose vanno come sembra, non so chi avrà la maggioranza e chi sarà la minoranza, saranno tutte quante grandi minoranze. Ma scusi un attimo, Mastella, ma esistono ancora, quanti voti ha lei ancora sul territorio, quanti voti pensa di avere? Non lo so, non sono in grado di sperimentare. Le più dico o meno. Alle europee in Campania sono arrivato dopo Berlusconi, ad esempio. Nella mia provincia ho superato anche Berlusconi di 5.000 voti. Ma secondo lei quanti voti ha adesso concretamente? 100.000 ce li ha? Non me lo dica, perché non posso fare la stima dei voti che ho per la semplice ragione che non sono candidato. Qualche voto, insomma, mi è rimasto, qualche amico in giro, cioè, lo vedo da quelli ma che muove si rammaricano che fossi stato candidato, di quelli che speravano che fossi candidato, quindi da tutti questi... Cioè le truppe Mastella... La somma, siccome ho dicevato noi, la somma che fa il totale, insomma, questa somma era una scommessa. Ma che ne so, secondo lei 50, 60.000, 100.000 ci sono? Insomma, sì. Le dico, alle regionali abbiamo preso quasi 100.000 voti in Campania, quindi dico 100.000 truppe mastellate ci sono, diciamo. insomma, qualcuno in più pure. Qualcuno forse. In più. Non lo so, insomma, ma per chi è direttamente in campo lui, Ma oggi per chi votano questi qua? Oggi in Italia per chi votano? Ma le truppe mastellate, devo dire la verità, sono molto sconcertati, quindi sono un po', diciamo, persone che votano con grande libertà e sceglieranno non so che cosa e non so chi. Ma che ne so, sceglieranno, lei a un certo punto si era proclamato Montiano, poi pare che ci sia stato anche... No, io non ho detto Montiano. Beh, come no, ha detto che Monti era il futuro radioso dell'Italia, il federatore... No, io ho detto che Monti era un riferimento. Ho capito, lasciamo perdere. Ma adesso. Questo lo diceva fino anche Alfano, scusi, la debita a me. Sì, no, per carità, è vero. Lo dicevano tutti, ma attribuisce a me quello che... No, sono stati altri molto più poderosamente all'avanguardia rispetto a Monti. Io ho detto, ho preso atti quello che è. Ma lei ha tentato di farsi candidare per Monti? No, assolutamente, non ho mai parlato con Monti. Mai. Scusi un attimo, io voglio capire una cosa. Questi voti che ancora esistono, che sono attribuibili, diciamo, gente che vota, vorrebbe votare Mastella e che non può votare Mastella a queste elezioni, per chi vota oggi nel 2013 in Campania? Per Berlusconi? Per il partito? Il giorno dopo le elezioni, può darsi pure che faranno la differenza. Vabbè, ma secondo lei, appunto, dato che possono fare la differenza, qual è il suo umore? Questo qua che si accorciano le distanze, può darsi pure che faranno la differenza, no? Perché tutti quando vedremo nei prossimi giorni. Lei che indicazioni darà? Siccome sono stato poco, sono stato più in giro per ragioni un po' personali. Per ragioni di politica istituzionale a Bruxelles, a Strasburgo. Lei che indicazioni darà a queste truppe? Torno la prossima settimana, no, io non do indicazioni, ascolto le indicazioni. E vabbè, più o ascolto meno. Qualche rimostranza e quindi decideremo assieme a loro di quello che bisogna fare o di quello che pensano di fare. A quelli che sono liberi, evidentemente, non essendo in campo direttamente io, nessuno dei miei amici, evidentemente. Mi sembra che l'alternativa può essere Monti, PD o Berlusconi. Possiamo escludere qualcuno di questi tre? C'è la verità, insomma, non lo so, davvero non lo so, cioè nel senso che non mi faccio dire, perché è giusto ascoltare loro, se no avrei il vizio degli altri, quello di imporre, non mi pare che debba imporre, devo ascoltare e decidere con loro. Parenzo, dove deciderò sei? L'ultima settimana, vedremo. L'ultima settimana. Ma farai anche Clemente un'indicazione, farai una cosa pubblica, i miei voti potrebbero andare... No, non faccio indicazione pubblica, non sono... diciamo nella condizione di dare indicazioni pubbliche, non lo faccio, mi esimo, cioè ora in questa tornata faccio il politologo, se mi chiedete che succede, che può succedere, tendo di darvi la mia versione dei fatti, però non, al di là di questo non va. Parenzo, dove sei? No, voglio dire, no, sono per strada come al solito, perché il giornalismo deve stare tra la gente, ma voglio capire questo. E la signora Leonardo invece per chi voterà? La signora Leonardo è... Ma tu personalmente per chi voti? Vi posso dare il numero, chiamate domani magari... Ma tu per chi voti personalmente? Ma non credo che vi dirà per chi vota. Non... E Mastella personalmente per chi vota? Ma io, come dire, siccome sono il frutto di una realtà territoriale, deciderò e voterò secondo l'indicazione che verranno fuori in maggioranza tra i miei amici, e quindi mi adeguerò. Grazie, ciao Clemente, a presto, ciao. Vi ciao. Saluto, però ciao. Voterò all'incontrare di quello che qualcuno pensa. Cioè? All'incontrario di quello che qualcuno cioè non può darsi, ecco, la mia opinione sarà quella di all'incontrario, dopodiché vedremo come maturerà la decisione. Ma sei peggio della cosa, però insomma qua io credo che non lo vuoi dire, io voto la situazione è incasinata, è parecchio incasinata, e vabbè, ma questo non ci volevi dire per parecchio incasinata. Grazie, l'unica cosa che devo dire questi giorni, la cosa divertente che ho sentito, io ho fatto il ministro tra tante cose, feci ministro il lavoro di Berlusconi, e all'epoca Berlusconi su 1 milione di posti di lavoro, adesso 4, è arrivato a 4 milioni, sì. Allora io da ministro allora andavo in giro e dicevo, oh Mastella, ma ci dà 100 milioni di posti di lavoro? Dicevo, me l'ha promesso Berlusconi, mica io. Non arriviamo manco a 50 posti, ma comunque insomma la politica è così. Cioè non siete arrivati manco a 50? No, anche perché il governo cadde subito, quindi come tale, grazie alla Lega in quella circostanza che fece cadere subito il governo. Ciao, a presto, ciao. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Why don't you go on? Non mi molesti moschito, let me my burrito. Beh, voglio abbracciare fortissimo, caro Parenzo, l'amico Guido Crosetto. 150 sigarette in un giorno e finisci in ospedale. Ti rendi conto? Tu sei vicino a quella fine lì, eh? Ma figurati, io ho ridotto moltissimo. 150 sigarette al giorno e finisci in ospedale e poi dice sono un cretino. Beh, ti credo, cioè, sono un cretino. Io una sera 150. 150 sigarette, almeno così racconta, 150 sigarette al giorno. Tu considera che una sera quando c'eri anche tu, siamo andati a cena fuori, non facevo altro che uscire dal ristorante e fumare come un turco. Espressione che si usa, ma non scusami, si dovrebbe usare. Scusa, se un po', sì, ogni pacchetto ha 20 sigarette, no? Fai il conto, 5 per 2 è 10, 5 pacchetti sono 100. Siamo a 7 pacchetti e mezzo. Al giorno? Al giorno 7 pacchetti, poco più di 7 pacchetti. E ogni pacchetto poi costa 5 euro? Sì. Vabbè, ma quello lui no, se lo può permettere, come sappiamo, no? Ma ho capito, ma 7 pacchetti al giorno moltiplicato 5 euro, tu ti rendi conto quanto è al giorno? Cioè praticamente uno è un pezzo di PIL, è 1,05 del PIL. Ma Crosetto se lo può permettere, eh? Sono 35 euro al giorno. Comunque ragazzi, la storia del gatto di Sallusti resta al top, eh. Sai che meraviglioso. Resta al top. Adesso mi sa che i due sono pure insieme a 8 e mezzo, da quello che risulta. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Io non potevo entrare nel suo ufficio perché una volta che l'ho fatto il gatto mi ha distrutto. Sbranato dal gatto di Giannino con una puzza di pipì e di merda di gatto che inondava tutta la redazione, perché giustamente un gatto che resta per 6 mesi chiuso dentro un ufficio ha dei problemi anche il gatto, capisci? E giustamente c'è qualcuno che già scrive Sallusti la zanzara, il gatto mannaro di Giannino. Andrea da Milano, buonasera. Ma volevo chiederti questo, ma che fine ha fatto la signora? Sei tu Andrea da Milano, non ho capito. No, volevo chiederti io questo. Sì, dimmi. Ma che fine ha fatto la signora, quel genio inarrivabile della signora Vento? Beh, non lo so, mi ha detto consultami per fare questo punto di politica, poi non l'ho più chiamata. Ma se proviamo a chiamarla a buffo. Se vuoi la richiamo, se vuoi la richiamo. Sì, così per sentire, ma ho bisogno di sentire una stronzata oggi. Sì, aspetta, Andrea da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica, vada. Crociani, secondo me il signor Sallusti, sì, poco fa, sì, anziché fare il giornalista con la trasmissione con gli editoriali stamattina, sì, non ha fatto altro che fare la marchetta a suo padre padrone. Sì, vabbè, questa è la sua, infatti, la sua tesi, ha fatto la marchetta a Berlusconi. Non ha fatto che andare dietro a quello che sta dicendo il signor Berlusconi da tempo di non votare Giannino. Sì, adesso io purtroppo non vi sento, sono solamente ritorno alla radio. Comunque, sì, secondo me il punto principale ha detto un mucchio di frottole, soprattutto sul fatto che Giannino sia un personaggio che non cerca alleanze. Sì. Perché signor Giannino, io ho cominciato a seguirlo qualche mese fa, e durante i convegni, quando tutta la massa di gente cominciava a dire dobbiamo andare da soli con una massa di caproni, Giannino era ben consapevole di quali erano i rischi di presentarsi da soli a queste elezioni. E quindi ha fatto sempre di tutto per cercare di aggregare delle forze intorno a fare per fermare il declino. Poi per vari motivi, con molti non c'è riuscito, con altri non c'è riuscito, per i motivi che tutti conosciamo. Ma uno che è una cosa di questo tipo, come ha fatto Sallusti, fra l'altro con quest'ironia veramente poco divertente. Vabbè, a me ha divertito moltissimo, a me ha divertito moltissimo, a lei no, a me sì. Cioè. Ma a me l'ho trovata poco divertente, secondo me. Vabbè, lei ha trovato poco divertente. Qualcuno come al solito scrive: ma voi fate campagna contro Giannino, eccetera. Figuriamoci se io faccio campagna contro Giannino. Io faccio il giornalista, non è che faccio il militante, faccio il militante di nulla. No, io facevo l'ironia di Sallusti. Sì, lo so, non ha detto lei. Grazie. Daniele, provincia di Treviso, buonasera. Fra poco un grandissimo ospite, grandissimo Daniele, provincia di Treviso. Buonasera, Crociani. Vada. Chiamavo anch'io per intervenire in merito a Sallusti. Allora? Lo so che riprovera sempre, no, ha detto una montagna nessuno di scemenze e di inesattezze, cioè una mancanza totale di argomenti politici elettorali. Quando non sai come ribattere l'avversario lo screditi sulle banalità, il gatto che piscia, il vestito originale. Io sinceramente, da un direttore di giornale che dovrebbe fare informazione e non disinformazione, mi aspetterei qualcosa di più di un discorsetto così da osteria, da ignorantone qualsiasi. Vabbè. Veramente schifato dall'intervento di Sallusti e della sua viscidosità nei confronti di Berlusconi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco. Ma è con noi, caro Parenzo, la grande ripudiata da Sanremo. Beh, passata già all'attacco, eh. Grande attacco c'è stato. Finalmente una persona che parla chiaro, una persona che dice in faccia le cose come stanno, che non sta zitta di fronte a qualcosa che lei pensa di aver subito, un torto che ha subito. Anna Oxa con noi, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta, signora Oxa? Io bene, qualcun altro un po' meno. Chi è che sta poco bene, secondo lei? Ma non lo so, ditemi voi che siete delle zanzare con... Guarda, signora Oxa, ci sono cose più pesanti che succedono a Sanremo. Fra poco faremo sentire le voci di alcune persone che sono i parenti delle vittime di un terrorista che si chiama Battisti, i quali parenti sono incazzatissimi per la presenza di Carla Bruni. Allora io dico, lei non interessa questa cosa evidentemente, io dico una cosa. Lasci dire a me se mi interessa o no, prego dica. No, canterà Carla Bruni e non canta Anna Oxa, io dico solo questo. Allora, il problema non è se Anna Oxa canta o non canta, il problema è che non è il mio, ma il problema è di ciò che tutti state vivendo. Cioè? Tutti noi stiamo vivendo comunque una manipolazione di un sistema che ormai palesemente si mostra in modo squallido per com'è. Cioè? Quindi la comunicazione è l'apice del sistema, voi lo sapete benissimo. Sì, però che vuol dire concretamente applicata la questione del festival, quello che le è successo? Se no non capiamo niente. Lasci perdere quello che è accaduto a me. Quello che è accaduto a me fa parte di un sistema che decide prima qualcosa e poi lo ricambia subito dopo. Però ci faccia capire, lei dice di essere stata fatta fuori per motivi politici, che vuol dire? Allora, vuol dire che siccome Sanremo è un sistema dove viaggiano diverse situazioni politiche, no? Visto che Fazio ha sempre fatto il 1° maggio, quindi per cui sappiamo benissimo di cosa si parla. Ci sono anche le forze discografiche che fanno la loro parte, c'è anche l'altra parte che è la RAI che fa la sua, in mezzo a tutto questo turbinio di situazioni, alla fine hanno deciso, dopo una lunghissima litigata che non ho rilevato io, ma ha rilevato un giornalista, Carlo Nesti della RAI, ci sono state dopo queste eliminazioni. Ecco, voglio dire, dopo aver accettato, dopo aver detto ok, la Oxa, non so, c'era anche Irene Grandi, altri personaggi che facevano parte, erano tutti sicuri. Sì. Allora il punto non è l'eliminazione, perché io sono stata eliminata tante volte, ma apparentemente. Il problema non sono io a Sanremo, che non ho mai vissuto di Sanremo, perché ho sempre fatto progetti, non ho mai scritto canzoni personali. Però io voglio dire, quando lei parla di motivi politici, uno però dovrebbe dire anche quali sono i mandanti della mia eliminazione, perché altrimenti uno non capisce, la gente si trova di fronte. Ma guardi, i mandanti, allora innanzitutto Carlo Nesti sa qualcosa di più. I mandanti quali sono dentro una commissione, secondo lei? Fazio, Pagani, poi c'è la discografia che sarà la Caselli, altri discografici. Oh, lei dice Fazio, Pagani. Internazionali, e poi c'è anche una RAI. Che voglio dire, ho capito, però dicendo così, minore. No, certo, però dicendo così, lei fa tutto un minestrone da cui non si capisce nulla. Scusi, ma se glielo dico. Lei dove vive? Vive in un'Italia di minestrone, mi viene a dire che io faccio un minestrone. Lei vive nel minestrone, forse lei è una delle verdure del minestrone. No, guardi, quello si sbaglia, sono fuori dal allora minestrone. Allora io me lo auguro, vorrei dire che siamo si sbaglia, ma nello stesso tempo ci sguazzo dentro e cerco un minimo, nel mio piccolo di raccontarlo. Però quando lei dice la politica, il sistema mi ha fatto fuori, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Lei dice Fazio mi ha fatto fuori. Non si soffermi su una piccola cosa. Io non dico il sistema mi ha fatto fuori. Io non sono qui a far nessuna battaglia perché io non sono Sanremo. Cerchiamo di chiarire le cose, perché non ho mai avuto bisogno. Questo d'accordo. Anni che faccio. Certo. E quindi. Però vogliamo fare i nomi e cognomi di chi non l'ha voluta? E perché? Facciamone due almeno di nomi. Fazio è il primo. Perché non la vuole Fazio? Perché non l'ha voluta? Ah, lo vado a chiedere a Fazio. Che non Ma lei lo saprà, un'idea ce l'avrà. Ma lo vado a chiedere anche alle case discografiche. Perché e qual è la casa discografica che non l'ha voluta? Ci sarà qualcuna? Non si può dire le case. Sicuramente non ci sarà una sola casa discografica, ci sarà un corpo di discografici che avranno detto: voi volete questa cosa, se volete gli artisti, che ne so, internazionali, eccetera, si sono giocati la frittata tra di loro. Ma il punto non sono. Ma lo sa che secondo me. Lo so, d'accordo, però lo sa che. Una zanzara dopo. No, però lo sa che secondo me, però, detto con tutto il rispetto, se uno fa un'accusa di questo tipo, però deve anche un minimo, no Parenzo, che dici tu? Deve anche dire: guarda, è successo questo, questa persona qua, queste persone qui non mi hanno voluto. Uno non può dire no, ma la RAI, le case discografiche, le cose. Mi scusi tanto, ma se dentro una struttura ci sono dei personaggi che appartengono a fazioni diverse, sono poi tutti d'accordo nel far uscire dei personaggi, la struttura è d'accordo, abbi pazienza. Sì, d'accordo. Il sistema però funziona così. Comunque, Fazio, sopra qualcuno di più grosso, dove gli altri omuncoli dirigono le cose. Come si chiamava però la canzone? Però alla fine vince sempre lo stesso. Come si chiamava la canzone? Ma non me lo ricordo come si chiamava la canzone. Il mio progetto uscirà fra pochissimo. Io il 22 sono al Sistina. Sì, lo so. Oxa History. Intanto partono questi teatri e poi il mio progetto uscirà e a prescindere. Ma la canzone qual era? Qual era la canzone? Qual era la canzone? Era più di una canzone. No, era quella, la canzone quella giusta, è vero che non c'è. Appunto, qual è la canzone giusta che hanno bocciato? Ma come posso io raccontare della musica? Questo è il dramma dell'Italia, che tutto si deve raccontare in poche parole. Ma no, in devi poche ascoltare, parole. Devi ascoltare, non sentire. Ma non è questo il punto di raccontare la mia, la mia canzone, perché io non sono venditrice di ciambelle. Ma semplicemente è stare attenti a un sistema che invece, soprattutto Fazio, che ha esordito dicendo non farò mai un festival di X Factor, non farò mai un sistema di amici eccetera eccetera, poi invece alla fine ha fatto questo tipo di festival, ha piazzato non vogliamo artisti che hanno 50 anni, vogliamo tutti giovani, poi ha fatto l'opposto di quello che ha detto e poi ci sono personaggi che hanno 50 anni che sono nel caso 51, ma la cosa tremenda, terribile, che adesso la creatività ha un'età. No, ma questo è terribile. Quindi sicuramente i politici possono anche essere centenari e sempre i soliti che ormai cambiano come... Dunque l'età, lei è stata fatta fuori, diciamo, formalmente anche per l'età o no? Prego? Cioè lei è stata fatta fuori formalmente anche per l'età, per una questione di età? No, perché non si può prima accettare che va bene un cast e poi subito dopo c'è questa litigata e si viene fuori e poi si dice... Ma chi l'ha fatta questa litigata? La litigata chi l'ha fatta? Allora lei insiste, io lo so che lei deve fare il programma. E deve no, battere. Devo chiamare Nesti. Allora, chiamerò. Sapere come si chiamavano i due brani? Batte forte, come sta facendo lei, batte, e poi sali. Però non batta troppo perché batte forte i sederi e scuotono. Batte forte. Quindi, e sali. Abbiamo il traffico, torno subito. Ma è vero o no che ha voluto fare un Sanremo tutto di sinistra? Mi risponde dopo. Eccoci qui a 8:30, c'è Fabio Volo, c'è Giannino e c'è pure Sallusti, caro Parenzo. Scusami, volevo chiedere una cosa. Tu hai capito perché non è stata accolta a Sanremo? Sì o no? Dimmelo sinceramente. No, francamente non ho capito, ma voglio chiederle una cosa ancora più importante. Io sto cucinandomi del cavolo, cioè sto facendo bollire il cavolo. Uno potrebbe dire chi se ne frega, però vabbè. Noi... No, ma volevo chiedere alla signora Oxa, che mi hanno detto essere anche una grande cuoca, quanto deve bollire il cavolo nell'acqua? Senta, io non sono la cuoca data a lei perché sono una vegana, lei sicuramente mangerà carne. Beh, però il cavolo è una roba che i vegani... Dipende dai cavoli, ad esempio io ho dei cavoli che mi girano a seconda della giornata, ho cavoli un po' neri, cavoli un po' più duri, cavoli che si mettono un po' di più a cucinare. La canzone... Diciamo che in Italia ognuno si fa i cavoli propri. Ma quello sicuro, ma il festival sarà un festival di sinistra secondo lei? Assolutamente, io l'ho definito il sottoprodotto del primo maggio, nel senso che va bene il primo maggio che ha un senso, ma fare un Sanremo dove poi, io voglio parlare di questa cosa, si dice di voler aiutare i ragazzi, i giovani, ma è una grande palla, perché per aiutare i giovani non è certo Sanremo, qui si fa invece un grande consumo, come una grande merce, carne da macello di questi giovani, perché si usano, si buttano via, esattamente come sto dicendo io, per farsi dei programmi, per fare... ma non è più epoca ormai di creatività, ormai di professionalità, perché è stata completamente annichilita da questi personaggi. Lei che cosa vota, signora Oxa? Io? Nessuno chiedere. Voto. Non voto, non va a votare? No, io non voto più questi grandi pagliaccioni e non voto più e non voglio essere parte integrante di tutto quello che accadrà. Ma parte integrante da tutto ciò di tutto quello che può accadere votando, gli stessi. Tutti dicono che uno cambiano, quell'altro così, quello con lì, però quello sta facendo delle cose, ma sono tutti neri. Allora io mi dissocio da tutto questo, non ho nessun problema a doverlo manifestare. No, perché, ecco perché manifesto, perché accanto a me poi tra l'altro non vedo nessuno, non vedo nessuno che viene vicino a me, perché io non sto facendo la mia battaglia, io sto cercando di fare in modo ma io ancora non ho, non ho capito questa la creatività, la litigata che e l'ha esclusa, chi era contro di lei? Fare qualcos'altro. Chi era contro lei di lei? Sta in radio. Ci sarà un sta motivo, in radio, certo. Perché fa parte pure lei della fase, della fase dell'arte, della creatività, certo, dello spettacolo. Assolutamente. E allora, ma se nessuno si alza i propri fondellini per prendere, partecipare a qualcosa che è molto più grande di un passaggio televisivo. Dunque con lei hanno ammazzato, con lei a Sanremo hanno ammazzato la creatività escludendola, me lo dica. Ma non sto parlando di me. Ma io di ma quello voglio parlare. Mi vuole mettere in mezzo. Ma come no? Ma è lei che ha detto che il sistema mi ha escluso da Sanremo, la politica mi ha escluso. Io ho preso la mia, è come dire prendere una similitudine, un qualcosa e poi ingigantirlo. Ma Fazio chi è per lei? Fazio chi è? Cosa rappresenta Fazio per lei? Cosa rappresenta Fazio per me? Esattamente il polmone dell'Italia. Cioè? Tutto quello che è promiscuo, cioè un servo dei politici, uno che sta un lecchino dei politici, come lo può chiamare? Guardi, io non voglio dire che lui è un lecchino, ma sicuramente non è qualcuno che sta dall'altra parte. Dalla parte di chi? Dalla parte, ad esempio, da dove sono io, che non sto parlando per Anna Oxa. Non sta dalla parte degli artisti. Non ho bisogno di andare. Ma gli artisti, ma io parlo di arte, parlo di comunicazione e la comunicazione è tutto. E voi, Parenzo, hai capito? Dovreste un attimo. Ma io non ho capito. Hai capito? Avete capito? Allora, signore, ci vuole un dottore. Ma no, ma ci vuole un medico. Io mi aspettavo che lei mi dicesse il signore tale e l'altro signore tale non mi hanno voluto. Invece lei mi ha parlato di sistema e io non ci ho capito niente. Che devo fare? Io ho già detto chi sarò mi limitato. Ha escluso, però il problema non sono io escluso. Io non sto facendo la battaglia perché Anna Oxa non c'è il terreno. Per chi la sta facendo? No? Per chi la se sta poi facendo? Invece fa gioco dire questa cosa, allora abbiamo già esaurito questa cosa. Ma no, lei vabbè. L'ha esaurita esplicando quello che vabbè. Pensa. Vabbè, l'abbraccio comunque, va, devo chiudere. L'abbraccio anch'io tantissimo. A presto. Spero di non stringerla troppo. No, vabbè, stringerla troppo. Può succedere ogni tanto di stringersi. E può succedere, ho visto ossa cadere, non solo le mie. Prego. Grazie, grazie. Salve. E dobbiamo chiudere qui, eh? Vabbè, le voci di Battisti le facciamo sentire domani, eh? Ciao, Parenzo. Ciao, ciao. A domani. Sì, non potevo entrare nel suo ufficio perché una volta che l'ho fatto il gatto mi ha distrutto. Sbranato dal gatto di Giannino con una puzza di pipì di merda di gatto che inondava tutta la redazione, perché giustamente un gatto che resta per sei mesi chiuso dentro un ufficio ha dei problemi anche il gatto, capisci? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ha dei problemi anche il gatto, capisci? Radio 24. La passione si sente.